sei Gianni? Gianni, ci sei? Papà! Chi ti sta chiamando? Claudio D'Alghero. Papà, Claudio. Roba? Sì, sì, di radio si sposta adesso. Non è come prima. Santiago è 4. Santiago 1 e mezzo. 1 e mezzo, Claudio. Sì, sì, sei 4 così. Chiudi la radio, è chiaro. No, è così, Claudio, sto guardando bene. Da 1 e mezzo si è passato a 4. E quando si è 1 e mezzo la radio è anche molto più bassa. E io sono qua all'ascolto, dai. E via, ciao Claudio, ando qua allora. Allora, dimmi tutto. Sempre con le... con quello che ti ha trovato, sì. Questo qui arriva veramente bene, come andrà? No, questo è il 2009, quello che mi ha trovato è con il 4000. Ti ho cambiato il transito l'altro giorno, ma non vado a circa, sono quelli di cinesi, mi dà un watt e mezzo. Devo, adesso sto aspettando un amico che mi ha tirato qui così transito suoi originali dall'Inghilterra e così torna come prima. Questo è, va benissimo. Che microfono stai usando con questo qua? Il stato usando il CM40 Special. Quella radio, quella radio. Il cassettone sta, mi sottovalutavo, invece sono un gruppo di veramente... Come si deve? Adesso ecco, si sente, a come da me. E a voglia che si sente. Stava andando. Claudio, però, io penso che sia qualche cosa nel PL che c'ha Giuseppe. Non è questo, perché vabbè, ok, l'amplificatore, però... Non so che non sia Giuseppe, la verità, di Alghero, ma di solito a me mi arrivavano, sono 7, 8, capito? Quindi, boh, è strano. Allora, che sia qualche fosso, magari in macchina, cioè in casa qualche antenino di macchina. No, ha cambiato l'antenna. Sì, vabbè, la Grand Prix non si è venduta, l'ho avuta io. La Grand Prix è... al primo vento si è piegata. Se ce la metti di Alghero, al primo vento di coso, di maestrale, la trovi in terra. Dipende che Grand Prix, io ci avevo la Grand Prix in terra, che cattava Alghero, arrivava un po' di vincita, c'è un po' fuori. Avevo la Grand Prix in terra, poi la convenuta, come si chiama, le portatore. Angelo Asso. Esattamente, perché vabbè, ma la ragazza sta giovane, la dovrò piazzare, la ragazza per trasferire da di loro. E io ho capito. A me, se parli delle prime gambe che vendevano, quelle già erano buone, metà alluminio, metà vetrovese, alluminio pieno. Adesso stanno costruendo alluminio vuoto e quindi al primo vento si piegano, perché io quando abitavo con Vittorio Emanuele avevo pagato 50.000 e 50 euro avevo pagato, non 50.000 lì, 50 euro e al primo vento si è piegata. Era giunto bella l'antenna che mi hai dato, mi ha detto. E perché? Perché è tutta piegata, gli ho detto, non serve a nulla. Te l'avevo regalata a cosa? Aspetta, il telefono. Prova, qua. No, c'è tutto uguale, qua. Santiago 4. Guarda che sono la stessa. Ehi, adesso mi ascolto. Ehi, ma non dipende da me, dipende da lui, dalla sua ricezione, dipende. Perché io anche io arrivo bene, non dico 9 e 10, però 8 normale, amico. E 9 attaccato. A me sembra lo stesso, vabbè, comunque. Io penso che non sia Claudio tanto dal fattore amplificazione, sia dal fatto di qualche PL che è mal fatto, o saltato da freddo, qualche cosa del genere. Perché prima Giuseppe mi arrivava bene, mi arrivava a Santiago 7. Sì, va bene, ho amplificato, ma non c'è nessun difetto, le controllate PL di spezzoni. Non ci sia qualche piede che sia abbia la soldatura fredda oppure si è staccato la massa. E allora l'antenna che non vede, no, non vedo da dirla, l'antenna che non serve nemmeno per l'altro. Da te magari sì, perché la posizione è migliore. lo guardo così. Qua traffico impossibile. Dimmi qua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il segnale è aumentato anche da te. E tu sei 5, K, sì. E cosa hai fatto? Una e mezzo, una e mezzo. Prova a sganciare. Sì, che ti sento. Una e mezzo, sì, dai. Una e mezzo, due, dai. Sto andando avanti. Facciamo anche due, dai. E più bassa, molto più bassa. Lui deve andare sempre attaccato, se no non lo sento bene. Hai capito qua? Deve andare sempre attaccato. Sì, sì, sì, sì, la radio è aumentata. E come si è aumentata? Hai visto? Qualche cosa c'era. Prova anche con gli altri, controlla anche gli altri ispettori, perché sicuramente c'è qualche cosa. Via. E ricorda, dai, 1,5-2 e poi la 3,5. Attaccate 5, 1,5-2 e staccate. Ehi, chi è? Ehi, c'è Massimiliano. Chi è? Avanti. Chi è là? Sì, che ti ascolto, qua. Ti sentivo, ti rispondevo, ma tu mi sentivi deve essere. E io da qui sta arrivando 5, se si è attaccato sta arrivando 5, eh. No, lasciali in questo, aspetta che l'ho avuto anche io. L'ho avuto anche io, quando l'ho venuto Marco scusa. E l'ho avuto anche io il terzo SSD. Apportante mi stavo mettendo. Ah, e allora? Adesso non mi stanno più mettendo, non ho fatto un colpo. Prima già lo si sentita io perché anche forte. Magari qualcuno che stava provando si è accorto che c'eravamo noi. Allora, di ritorno sì, claro. Sei di ritorno, visto che hai risolto il problema. Sì, sì, sì, così va bene. E così mi faccio il sonnettino, dai, che sono un po' stanchino. Io ci sono attaccato la medicazione, cosa? Sono aspettato 2 ore, cazzo, per medicarmi un piede, dai, non ammare. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, Claudio, più tardi, ciao ciao. Ok, andare. Vabbè, dai, buon rientro, ci sentiamo. Ciao ciao, niente, ciao ciao. Eri a casa, no? Sì, sono a casa adesso. Poi fra poco devo andare vicino a casa tua. Quindi già mi porto il portatile appresso. Sono andato alla fiera, Ma non male che era gratuita, sì, una solita cagazza proprio. L'unica cosa interessante erano gli scooter elettrici. Tutto il resto era da buttare. Volevo portarmi la radio, il Bao, Bao Bao, oppure no, l'Intec è omologato, l'FM 5050 e chiamare, vedere se c'era qualcuno, ma nel pomeriggio non c'è nessuno, ho detto, non ci sa, aspetta che levo sto ricevitore. Ecco qua. Volevo portarmi il PMR a vedere se c'era qualcuno, ma poi ho detto, tanto pomeriggio non entra nessuno e non me ne porto. Si vedeva tutta Sassari mi, dalla ringhiera di Ombra, tutta Sassari si vedeva. Sì, te lo so già. È alto lì, vedete qui. Là è alto, una voglia. E dove devi andare qua in zona? Vicino a casa di Paola Clementina. Via Zara o dintorni, via Pasubio. Via Provincia d'Inizio. Esattezza. Di fronte alle scuole che ci sono, dell'alberghiero. Ma perché l'alberghiero è via Pronicetta? No, via Pronicetta fa quello, via. Già mi è capito, dove c'è l'alberghiero, la via. Parallela alla cosa della Trenza, ma non me la ammetto. Ma l'alberghiero non è a scala di ciocca? Prima di scendere le curve. No, quella è un'altra scuola adesso, l'hanno cambiata. L'alberghiero ce l'hai proprio vicino a casa tua, ce l'hai. Ah, non lo sapia. Ma se non sai manco la strada dove devi andare. cosa c'è parallela di Viale Trento? Via Gorizia, Via Pronicella, tutte quelle vie là ci sono, Via degli Astronauti, che non è parallela ma è perpendicolare. Adesso proprio non me lo ricordo. Come diavolo si chiama? Comunque viene a prendermi in macchina, quindi devo andare a casa sua. E devo staccare un monitor, c'è un monitor. Devo controllare perché c'è l'audio il televisore ma non c'è il video, quindi devo controllare i LED, devo controllare se funziona. Se funziona non si riordina e devo far ordinare lo schermo tutto intero. Intanto a smontarlo è un casino, perché non ne vale manco la pena smontarlo. Eiaia. Va bene. Sì, se noi siamo tornati adesso. Sono stato parcheggio su, sono entrato a casa che aveva chiamato Claudio che avevano sistemato il tutto a Giuseppe d'Alghero. A Massimiliano, prima gli arrivava 5, adesso gli arriva 9, pensa tu. Sicuramente è aumentato molto anche qua, ma arrivava 7 prima, 6, 7, adesso sarà molto di più. A me è attaccato arriva 5 con picchi positivi quasi a 6,5, 7. Quando spacca Santiago 1,5, 2. Questo prima, adesso ha migliorato molto. E vorrei fare una chiamata, attenzione Giuseppe D'Alghero, ci sei all'ascolto? No. Va bene, poi mi dirà le magie che ha fatto Claudio, mi dirà le magie che ha fatto per far funzionare il tutto, bene. Noi siamo andati di pomeriggio perché non c'era nessuno, abbiamo trovato posto auto, capito? Poi siamo andati da Ombra, abbiamo guardato due cose, sì c'è un po' di roba, ma alla fine ha comprato due fesserie, mamma, due piatti fondi e boh, due piatti sottili anche. Bene. Comunque era bello chiamare da là, si vedeva tutto, però sai cos'è, noi dovremmo concordare di più gli orari per sapere quando chiamarci, perché insomma già lo sai, no? Non coincidono gli orari, io dovrei tenere il portatile acceso tutto il giorno, però la batteria poi si scarica, magari proprio quando entri tu non è scarica, capito? E se no, alla fine, buia, mi sta venendo lo stimolo della checchemi. Io la tema già fai nei cazzi, io che mi ho lasciato via a tempio, me l'ho presa, mezza taglia di fai nei, me la giovania da un Giampiero. E beh, che effetto ti ha fatto? Ma la verità, aria è basta, più che altro stamattina mi sono stato di un po' di aria, intanto facevo qualche scorreggio. Ci sono. E quindi pensa se facevano fainé con i fagioli. Mamma mia. Comunque anche Cicci fanno il loro piccolo effetto, dai. Fainé buona. Io buona la prendevo in via Usai. Quella era il non plus ultra. Non so nemmeno se la fanno ancora in via Usai, se è ancora buona. No, già c'è sempre quella. Anche in Consul Vico la fanno buona. Anche quella è bravo. Io andavo in via Usai e poi in Consul Vico. E poi spesso andavo a prendermi le pizzette con le quadrate, che sono buone. 1,50 ce li ha in via Tempio, con le pizzette quadrate. Via. Alla piazzetta nel corridoio, no? In fondo c'era, dovrebbe esserci ancora, almeno in inverno lavora, pizzeria, faineria, si faceva richiesta a pizzette quadrate o fainè, ma ti devo dire che era veramente, veramente buona. Poi col pepe mi, o con le cipolle, mamma mia li turchi, buonissima. Andavamo apposta a mangiarla lì a pranzo, lo sai. E poi invece l'estate era chiusa, penso che in estate non apra proprio, capito? In estate evidentemente c'è tipo stagione evidentemente. Speriamo che non abbia chiuso. Comunque la fiera la solita, meno male che era gratis, perché gli altri anni si pagava, almeno due anni fa mi pare si pagava. Adesso è gratis perché è un insulto proprio, è una cagazza. Ci sono sempre quei disperati della Folletto Warwork. Quelli non mancano mai, capito? Ti vendono l'apparecchio base, poi gli accessori costano un bel. Vabbè, c'erano gli abiti da sposa, c'era un centro estetista, stavano truccando le tippe. Poi al settore moto, dove ho visto lo scooter elettrico, c'era una tipa con una tutina, mamma mia, una biondina, da stupro, una brutta parola stupro, ma ci hai capito quanto era buona. È tutto lì, dai. Già è buona, già, specialmente se c'è pantaloni tutti tirati in culo. Lì. Io ne ho visto una così, una tutina, pantaloni tutti infilati in culo, si voleva anche la parte di davanti, gli ho detto, sullo spacco di davanti, si vedete, questa è comunque già valuta la violenza. Leia, anzi, a dire il vero, gli scooter elettrici ce n'erano vari tipi, ce n'erano uno, due, tre tipi. Tre tipi, scooter a batteria elettrici proprio, motore elettrico e batterie ricaricabili. Non so di che tipo, se al piombo, al gel. Uno sembrava il Ciao quasi, il Ciao, capito? Versione elettrica. Molto carini, però sono aziende che oggi ci sono, domani no. Cioè tu se te la prendi devi avere dei cambi per almeno 10 anni, se non di più. Non era roba viaggio, era roba marche mai viste. Magari dopo un anno fallisce la ditta e non trovi più i cambi. Te lo attacchi alle chiappe. Costava 1200 euro uno. Ho detto solo? 1200 euro costava. Quanto? 1800 euro? 1200. Se lo tengo a conto, guarda, se me lo prendo 2-300 euro, uno scooter da domare e basta. E se la piglia in Napoli, se la piglia. Vabbè, a me mi ha chiamato quello, adesso fra 5 minuti ti chiamo di là, ti chiamo. Così vediamo, già mi senti, mi pare che era 10, se non mi ricordo male, giusto? Ma cosa 10? 8? 8, aspetta che lo metto allora. Ci siamo presi il caffè alla fiera, l'unica cosa buona era il caffè. Sempre giro, sì, a prendere due cosette, buh buh. E me l'ha lì con le colonie, bene, sono andato. Eia, li ho attaccate, meno male, cazzo, non mi serveva male, cazzo. Adesso almeno si capisce la gente. Meglio così. Va bene, Marco, sto cominciando a scendere giù, ti chiamo appena tra 5 minuti. Ma tu come vai in questa zona col tram? Non andrai mica a piedi, no? No, sto venendo a prendermi in macchina, capito? Faccio come ti ho detto che era qui, mi metto a scendere direttamente giù. Ti faccio chiamata quando sono in via Carlo Felice, dai. No, Antone, fai una cosa, non ne portare radio, fregatene, dai. Tanto adesso mi corico un po', dai, mi stendo la schiena. Visto che non ho riposato pomeriggio, mi sto un'oretta sdraiato, fregatene la radio, fregatene, fottidini, dai. Va bene, allora a ritorno, dai, non c'è problema. Andare. A dopo, dai, che sto scendendo giù. Via. Ciao Natale, caro. Dai, Marcolino. Venga, sono andato alla fiera. La fiera dei Bucarotti, Meno male che era gratis l'ingresso. Ci siamo pigliati il caffè, l'unica cosa buona che c'era. Chi è che preme in PMR? Piru. Ma non ti perdi niente a Natale, te l'ho detto. L'unica cosa bella che c'erano sono le moto elettriche, scooterini elettrici, piccolini me. Mi sa che tu cucchia. Guarda, c'erano i tre tipi diversi di tre ditte diverse. Uno mi ha detto 1200 euro, 1200. Non è morto, ho detto solo, io credo 2-3 mila euro. perché se vai a comprare un Piaggio Liberty come il mio lo paghi almeno, minimo, nuovo, 2500 euro, se non di più. E quindi i prezzi sono buoni, però sono ditte mai viste, non è Piaggio, non è... sono ditte magari che falliscono dopo un anno e ricambia Dio. Poi non so che batterie monti, se sono normali batterie al piombo, se sono batterie al gel, non mi hanno detto nulla. Mi hanno dato il biglietto alla visita, sono ad Alghero, piaceri, non so niente. Vabbè. Poi ho chiesto quanto fa in città grosso modo come chilometri. Dipende dallo spunto, perché se lei affonda in fretta, no, ha uno spunto maggiore, però consuma più, ma passava a dire una cosa media, no? E non me l'hanno detto. Io c'ho lo scooter a benzina, quando posso, io sono povero, quando posso lo metto in auge. Poi lo scooter è bello perché, vabbè, io lo uso solo in città, fuori città non vado, a meno che, vabbè, finché si tratta di punti, sì, però poi piglio la macchina, capito? Non mi fido delle manovre degli altri, sono dei pazzi gli altri, Nathalie, se sei in moto ti puoi fare molto male per colpa degli altri, però. Ogni tanto ne investono qualcuno in moto, in bici, a piedi, capito? E se ti va male ti ammazzano pure. E poi scappano, perché tanto sono tutti o senza assicurazione o senza revisione. Poi li beccano, perché li beccano, qualche testimone c'è sempre. E li mettono tutto in conto, capito? Sì, infatti. Vediamo se Claudio è arrivato a casa. Claudio, ci sei? No, ancora no. Va bene, va bene. Hanno migliorato l'impianto di Giuseppe? Dovrebbe arrivare molto più forte. E infatti qua non arriva proprio per niente. Non mi dire, Giulio. Non mi dire, c'eri anche tu, perché io ero alla fiera, ho detto al telefono, Claudio, sono fuori, non posso darti i controlli. Da Massimiliano pare sia aumentato da 5 a 9. Aspetta, qua arriva già 6-7, se aumenta davvero così dovrebbe arrivare benino, insomma. E da te non arrivava così, Giulio? No, non arrivava. Arrivava da Gianni, arrivava a Santiago 5 attaccato. Staccato arrivava, non si sentiva quasi niente. Ah, anche Gianni c'era. Vabbè, comunque da me arrivava 6 o 7, più 7 che 6. La radio, vabbè, bassa, perché Giuseppe, insomma, ha l'età che ha, quindi non può spingere più di tanto. Però se è regolato bene, adesso vediamo quanto arriva qua, quando entrerà. L'ho chiamato prima ma non c'è. Buonasera Giulio, non andate alla fiera che non vi perdete niente, è gratuito l'ingresso ma non vi perdete niente. Ok, ciao Marco, ciao Nathalie. No, infatti io non ci vado perché tanto non so, a Santa della fiera non la sanno fare, è una porcheria, sempre mondetta mettono e basta, queste quattro cose che non valgono una cicca. Io mi ricordo la prima fiera di Sassari, ero bambino, avrò avuto forse 10 anni, ed era, mi pare, o a Piazza del Segno o fianco al Caloponeno, in via Nulesole, dove c'è quel terreno grande, ma c'era di tutto e di più, quella veramente era una fiera bella. Poi sono andati peggiorando con gli anni, fino ad arrivare a questa cosa ridicola, demenziale, che è la fiera di adesso. Francamente è proprio una cosa da disperati, da disperati. Brutta. Le cose più belle che c'erano erano le cose da mangiare, formaggi, salami, olive greche, grandi non so quanto, variano uova. E poi sono tutta una cosa che non c'è bisogno di fare a fiera per la cosa di mangiare, perché la gente mangia tutti i giorni, uno si apre l'attività e vende sempre, perché quando si tratta di mangiare, già lo sai, il satanese, o meglio il sardo in generale, mangia a quattro ganasce, per cui che motivo c'è di andare a vendere formaggi in fiera? Ma fai, che sono tutte stupidaggini, tempo perso. Infatti, mamma, qui c'erano quelle belle olive, le avrei volute prendere, ho detto, ma guarda che le olive le trovi dappertutto, le trovi da Auchan, le trovi da tutte le parti, di tutti i tipi. Lì magari te le fanno pagare un sacco, per ripagarci lo stand, lei ha capito? Ho detto, fregate, ci siamo pigliati il caffè, e basta. E poi siamo andati da Ombra. Sempre tutto uguale, c'è un bel di roba, così, ma Ombra a me non mi attira per niente, non mi attirano, non è di mio interesse, dai, queste cose per la casa, magari utili, ma roba che magari abbiamo già. Magari ha delle cose utili, ma è lui che è inutile, il proprietario. Non ci vado mai in questi negozi così, io fanno ridere, negozi che fanno ridere, per carità, poi facciamo perdere, dai. Ciao Giulio. Ciao Natali, che è beh. Beh, siamo qua. Ok. Io ho messo in macchina, mi ho messo il pezzo del tubo che ci serve. E anche per il pezzo per la finale della canna da pesca. Io ne sto portando un paio di pezzi. Fra questi sicuramente c'è quello che serve per mettere la parte finale. Sì, capo. Vediamo di allestirla. E così ce la buttiamo sul tetto. Ok. Tu le divini e te li prendi. Gava gava. Porta il coso, il rocchetto, porta, così lo incolliamo con la palla, ti ricordi? Come hai fatto? Il PL dove l'hai attaccato? Alla plastica direttamente o al legno? Alla plastica. E allora non c'è bisogno. Allora basta solamente gli anelli, quei due anelli, tra l'altro due anelli, uno per sopra della plastica e uno per sotto, in modo che non il tubo rimane entra giusto. Sì, già vediamo di fare il tutto. Già ti porto la plastica e adesso una busta così, vediamo cosa ci vuole e cosa non ci vuole. Ok, d'accordo. Andate! Marco, allora non ti è piaciuta la fiera di Sassa, no? Cazzo, che è nata l'impresa che fanno delle volte, sempre più scadente questa fiera di Sassa. Ma una volta mi ricordo che la facevano anche al padiglione dell'artigianato, se ricordo, tanti anni fa. Non so, adesso non vorrei dire una pesteria, ma mi sembra che l'avevano fatta anche lì, Può darci pure. Guarda, quella veramente bella era quella situata, una volta mi ricordo che era a fianco al Canopoleno, dove c'è quel grande spiaccio, no? E una l'avevano fatta a Piazzale Segni, mi pare, dove mettono la giostra o giù di lì. Ma erano le prime due, dici che c'era di tutto e di più. E devono, cioè, per far conoscere le aziende, ma non... siamo ferri. Quello all'Umacco era gratis. Vabbè, e questo è un'altra storia. No, ma ultimamente, cioè l'ultima volta che l'avevo vista io, sai dov'era? Praticamente tu immaginati Bricome, dietro, alla spalla di Bricome una volta l'avevo fatta, l'ultima che avevo visto io, ma non mi è piaciuta per niente, perché era una fiera ridicola, per conto mio, come tutte le cose, tutte le volte che la fanno qui a Sassari. Sì, infatti. Hanno detto che, almeno chi l'ha vista, ha detto che anche quella di Cagliari ha perso il suo smalto, la fiera di Cagliari. Forse prima era più bella, poi tutto, ricordati, tutto a Sassari, e non solo, va sempre più male. Tutto, tutti i negozietti del centro storico hanno chiuso, tutto neri, tutto coso. Sassari sta cambiando in peggio, in peggio. In tutti i campi, negozi, delinquenza. Tanto questi nigeriani non sanno fare altro che spaccio di cocaina, di eroina, quello, di quello vivono, capito? Tutti asserragliati lì al, come si chiama? Al Corso Basso, Corso Vittorio Emanuele in Basso. È una brutta zona, è diventata una brutta zona, tutti hanno chiuso. L'unico che sopravvive è quella specie di tabacchino che vende anche oggettistica tipo artigianato, cose che mette in vetrina, che è molto carine peraltro. Ma anche quello sul giornale ha detto che temono un po' aggressioni, cose, risse. Per carità. E per quanto dobbiamo ringraziare la politica italiana che ha permesso l'invasione di tutte quante queste persone che vengono qua a delinquere, perché fanno solo quello, meno fanno altro. Ma vengono a delinquere a protestare, per carità, abusivamente, perché non gli dai quello che vogliono loro, come pranzo, come vogliono poco di cose. Poi non si rendono conto che sono in casa d'altri e sono qui per pura carità, forse non se ne rendono conto, è già molto che ti danno da mangiare. Hai visto ieri sono approdati in Italia 241 bambini, tutti piccolini, senza genitori, ma dimmi tu se sono cose da accettare queste, oltre al fatto che poi in tutto erano 600 e oltre persone che sono arrivate, però tra questi c'erano 241 bambini senza i genitori, così li hanno messi sulla barca o balcone con la stiletta e le hanno fatte arrivare qua in Italia, e l'Italia prende e ripara tutto. Che ci soffre di più sempre sono i bambini, poi loro non sono innocenti, non si rendono conto. Mamma mia, ce n'è un paio di bambini o minori, comunque minori, che spariscono da un giorno all'altro, spariscono, non si sa dove finiscono, non si sa se sono vivi, se sono morti. Purtroppo l'Italia non riesce a far fronte bene. L'Italia è un paese, è diventato una barzelletta, l'Italia, insieme alla Grecia. Siamo il fanalino di coda dell'Europa, proprio il fanalino di coda. Mi chiedo anche cosa ci facciano paesi come la Grecia, quasi quasi anche l'Italia in Europa, fare l'Europa unita. Ma cosa vuoi che ti dica? Tu dici che stiamo parlando di cosa? Io dico che siamo una vergogna dell'Europa, penso un po' per come la vedo io, perché non è possibile che si possano accettare certe situazioni. Ma quando mai, ragazzi, da uno Stato non è in grado di fronteggiare questa situazione qua? Mi sembra strano. Invece a quanto sembra li fanno arrivare contro loro di proposito, chissà con quale interesse, non lo so, questo lo sapranno loro, lo sanno solo loro, ma per dirti no. Caspita, con tutti i disoccupati, con tutta la fame che c'è in Italia, tu permetti di entrare anche questa gente, per impoverire ancora di più quei poveri italiani che stanno lavorando mantenendo in piedi la nazione. Ma non è possibile, guarda, non è possibile, non si può accettare un fatto del genere. Purtroppo gli italiani sono troppo bravi, perché non si rivoltano, perché se no, se fosse stato un altro popolo, probabilmente si sarebbe rivoltato, non so in che modo, naturalmente. L'italiano si rivolta solo se gli togli i soldi dallo stipendio. L'unico modo per fare rivoltare gli italiani, gli togli i soldi dallo stipendio, gli lasci senza niente, vedrai che c'è una guerra civile. Se no l'italiano è ciazzarese, dice me la futtu. E vabbè. Natalino, salvaci tu. Non ho capito. H47. Neia. Caspita, a me basterebbe in calibro. Qual è il calibro civile? Anziché il 762 NATO, qual è il civile? Come si chiama? Non me lo ricordo. 762x39 è lo stesso calibro militare, perché l'Italia si può usare, solo che si spara a raffica. Però con una piccola modifica lo ritorni com'era. Sì, anche a corpo singolo. ha voglia di farne di danno con quel calibro. Invece la K74 è un 5,56, però non mi ricordo la misura del bosso, perché come gli americani hanno fatto l'M4, l'M16 in calibro piccolo, anche i russi si sono adeguati. E non mi ricordo però la lunghezza del bossolo, tu te la ricordi? 223 Remington, cambia solo la palla, 56 per armamento grande, 50. No, ma non è quello il sistema, non sta lì. Intanto, intanto c'è Eugenio che sta blatterando, sta cercando di entrare, adesso lo facciamo entrare. Eugenio, calma, un attimino, adesso ci facciamo entrare. Tanto anche se parli sugli altri non ci sentiamo. Non è quello il sistema, non attendo, perché giustamente non è che si possono ammazzare le persone, ci mancherebbe altro. Però non è nemmeno quello il modo di fronteggiare tutta questa situazione, perché è assurdo che possa venire tutta l'Africa in Italia, nella maniera più assoluta. Non ci siamo, non c'è il posto, non ci sono le case, non c'è il lavoro, non c'è lo sviluppo, non c'è niente. È utile accettare. Poi dicono che erano andati in Libia lì per cercare di bloccare queste partenze così, e invece a quanto sembra ne vengono più di prima. Ma io vorrei sapere che cosa stanno pensando di fare, tutto lì. Vediamo un po' cosa ci dice Eugenio. Avanti Eugenio. Così almeno sei in buona compagnia. Sentite, 38 ne ha vicino a casa, hai due fila lì. Caspita, Sassari qui a Sassari, a una certa ora c'è il coprifuoco, Eugenio. Non puoi passare a Sassari Vecchio perché ci sono loro che padroneggiano in città e fanno quello che vogliono. Si azzuffano, si ammazzano, si picchiano, fanno di tutto. Cosa vuoi dire? Le prende Marco. Da poco si sono pigliati a bottigliate in testa, ci vedeva la foto sulla nuova che stavano curando la ferita in testa, che c'erano due di questi, capito? C'erano quelle 118 mettendogli un po' le disinfettante e il tampone lì. Vabbè, come si azzuffano gli italiani, anche loro si azzuffano per vari motivi. Vabbè Eugenio, mi ascolti, sono andato alla fiera Un attimo di quel ring. Giulio, traduci che lo capisco poco. No, non ero attento, cosa stavi dicendo? Oh, Eugenio, non ero attento, ero un pochino distratto in questo momento, stavo facendo cosa, riprendi. E ho capito che hai 38 ospiti hai vicino a casa tua. Vabbè, ascolta, fa una cosa, prendi un idrante e mandali via con l'idrante, non ce l'hai un idrante lì? Sono molto corrente, non lo capisco. Tu che lavori lì in porto, dovresti mettere uno sbarramento, non fare approdare le navi, nemmeno le imbarcazioni che arrivano, così almeno loro rimangono a largo, rimangono in acqua, poi arrivano maestrali e si ributta. Vero Marco? Purtroppo qua c'è propagazione, poi già arriva bassissimo lui, No, ma io gli avevo detto della fiera, che sono andato alla fiera, non so se ha risposto della fiera. Guarda, lo dico a parole mie, scusa Giulio, era una cagazza. Il termine giusto era quello, Giulio, perché se dici che è brutta è riduttivo. Lo so. Comunque, tutte le parole specifiche che si dicono, poi noi le sottintendiamo in altri modi, non ci sono problemi, siamo da salirsi, per cui state preoccupati. È quello il discorso, Marco. Hai sentito, dice che ha 38 ne ha vicino a casa sua, Eugenio. Auguri mio Eugenio, capita, nuova compagnia. Ma dove sei in porto? Tu arrivi talmente basso oggi che c'è Santiago 7 di QRM e arrivi in mezzo al QRM, no? E non riesco a capire tutto quello che dici. E nemmeno Marco capisce quello che dici. Sali sulla nave, mettiti in alto per trasmettere, perché qua non arrivi bene. c'è il QRM oggi, Santiago 7, uia! Figurati, arriva Eugenio, passo da Porto Torres, Marco, figurati se Giuseppe da Alghero, qui nemmeno l'ombra del segnale di Giuseppe si è sentito stasera. Ho sentito Tirrenia, sono a fianco della Tirrenia o qualcosa del genere, molto in là, proprio. Aia. Vediamo se Claudio è arrivato a casa. Claudio, ci sei all'ascolto? No, serata lunga. Quindi Giulio, da te non ha aumentato niente coso Giuseppe? No. A me arrivava 6-7. Sì, sul 7 più o meno, dai. Però radio bassa, dovevo aumentare di volume. Che lui la voce un po' c'era un po' così, un pochino bassa, quindi deve aumentare anche il volume, amplificazione, ma non so cosa abbiano fatto esattamente, ci hanno cambiato spinotti, bocchettoni, non lo so, tanto l'antenna è quella. Break. Sei registrato break, ma adesso te lo dice Gianni quanto gli ha detto, ma se, mi è sembrato di capire che a Gianni quando era attaccato gli arrivava Santiago 5, figurati se può arrivare qui da me, ma nella maniera più assoluta, non colpo nulla del tutto, avanti Gianni con la buonasera. Buonasera, sì, a me mi arrivava 5 attaccato e 1,5 staccato. 1,5, 2 è proprio esagerato, là. Ma come gli altri giorni? Attaccato lo sentivo anche più forte di radio, insomma era migliore, là. Era migliore anche di radio. Meglio, ben entrato già. Stavamo parlando di vari ed eventuali, dalla fiera che non ha senso nemmeno farne a questi livelli di fiere, una cosa ridicola. C'era Pomponio prima, che poi siamo andati da Ombra noi, dopo la fiera, siamo entrati a Ombra, su quella terrazza che c'è da Ombra, passando dietro, vedi tutta la città, e mi volevo portare il VMR per vedere se c'era qualcuno, solo che era presto, a quell'ora non ce n'è gente che entra in VMR, e ho detto, no, non è forte, al diavolo tutto. Io dico questo Marco, ma che tipo di fiera si può fare qui a Sassari? Quando tu vai in questi supermercati che hanno dato la licenza per poter esercitare e lavorare qui, quando c'è di tutto, più fiera di così. È chiaro, la fiera cerca di fare quei poveretti, quei quattro poveretti che sono arrivati a Sassari e in Sardegna con l'attività che ormai è al massimo del declino. Ma che tipo di fiera vuoi che possa fare la Sassari e la Sardegna intera? Con tutti i supermercati che ci sono, le grandi industrie, i grandi magazzini, che vai lì e trovi di tutto, tutto indistintamente. Più fiera di quella vuoi prendere? Sì, adesso ti sentiamo bene. Figurati, hanno un'attività nella terra che sarebbe un negozio di ferramenta e dunque di conseguenza hanno gente morta di fame quella. E allora perché vengono qua a sfiduciare l'Italia? Tipo Boko Haram. Tutti i paesi sono in guerra, non c'è una guerra dappertutto, per cui loro vengono qua per lo sfizio di venire qua, perché non hanno voglia di lavorare nella loro terra, allora vengono qui a vivere al baffo, ecco qual è il discorso. Perché sanno, dice tanto gli italiani già sono un popolo di cretini che ci mantengono, ecco qual è il problema. E vabbè, anche se è siriano, d'accordo, e allora perché non sei andato in un altro posto? Perché proprio in Italia, che sa benissimo che l'Italia è una nazione che non li può mantenere queste persone, perché non sei andato in Germania, perché non sei andato in America, o i fuochi che sono bombiani? E allora che se ne vale, anche se ne basta, no, facciamo noi pista di transito per altre nazioni, perché non se ne va allora, invece di andare qua? Perché l'Italia è il paese del ben godi. È proprio così, perché qui godono, e allora godono perché vivono al mappo, hanno tutto, cosa vuoi di più? Nemmeno nella loro terra hanno tutto quello che gli danno qua gli italiani e loro vivono al baffo, tu li vedi che stanno circolando per Sassari, io tutte le mattine li vedo perché salgo tutte le mattine lì e bella zona lì del Monte Rosello. Tu li vedi quanti vestiti decentemente, tutti con telefonino in mano, tutti addirittura ne passano tantissime anche in macchina e con la bicicletta, insomma, devo dire che stanno vivendo a sbaffo, dalle spalle degli italiani. La forza è Natalino. Ho detto che ci mandiamo i pubblici anche da questi qua, se non li avrebbero fatti entrare, se non avrebbero avuto convenienza. Sì, ma sicuramente quello è il motivo per cui permettono di venire, senza dubbio così, chissà quanta gente c'è che sta mangiucchiando, ma comunque questo non lo possiamo dire perché non ne siamo certi, ma lo possiamo pensare però, questo non ci sono dubbi, siccome non siamo stupidi del tutto, un minimo di intelligenza, almeno un minimo ce l'abbiamo, e non è concepibile che si possano mantenere certe persone qua se non c'è un interesse da parte di qualcuno. Questo è più che legittimo pensarlo, perlomeno non asserirlo, ma pensarlo. Avanti Marco. Giuseppe, attento Giuseppe, ascolti Sassari, nasce innocente, vedi che non è l'antenna. Giuseppe, mi ascolti? Eia, allora, Santiago 6,5, qua non è cambiato niente rispetto a prima. Gianni, chiama Valerio, non intende, no? Non ci sente, no? Giulio! Eia, dimmi! Come vedi, lo chiami e non ci sente lui. Non ci sente, o so, ha toccato qualcosa. Ehi, ascolta. Che pazienza. Ma che sai che tipo di impianto ha, cosa mi dice? È logico che non ci sente. Se non lo sentiamo noi, capita, Valerio qui arriva. Anche se sta essere attaccato, Valerio, basta, basta, ma arriva. Magari alle volte faccio fatica a sentirlo, però sento che sta parlando e molte parole che ne capisco. Poi quando attacca arriva benissimo, non ci sono problemi. E lui proprio non esiste proprio, come se non ci fosse in radio chiamando, capito quanto? Vai a produrre tu, vai a produrre, che l'Italia è povera, che ha bisogno di produzione, soprattutto da parte dei marittimi. Vero Gianni? Ehi. E da quando sei rientrato a lavorare? Pensavo che non fossi ancora rientrato. Ciao, buonasera. Andrò bene. Sì, faccio, se ti senti di lavorare, fatto bene. Come va? Tutto bene? Io non sto curando ancora, dai. La mia è una situazione particolare, mi guarisce, però se torno al lavoro che faccio fatica, non si riapre di nuovo, non devo stare in piedi praticamente, devo stare con il cane. In 2 settimane mi si è chiuso, però poi se torno al lavoro, di nuovo butta a capo, mi lascio tutta a Marco, avanti. Eia. Hai sentito che è entrato Giuseppe, stava chiamando Valerio, lo chiamo io, non mi sente. Ho abbassato qualche cosa, qualche refegain, lo chiamo più volte, niente. E il problema non è l'antenna allora. Se capì. Attenzione Giuseppe, mi ascolti? Come ti chiami, mi ascolti? Ciao Giuseppe, buonasera, dai. E adesso ti ascolto, Ti ascolto molto meglio. Ma non intende, no. Ciao, ci sentiamo. Avanti, Giuseppe. Desuai, si riceve al limite. Ciao Eugenio, intanto nel frattempo, ciao Eugenio. Ma non penso che dipenda da me, penso che dipenda dalla sua antenna. È ovvio. Giuseppe, mi ascolti? Sono Marco. Come mi ascolti? Guarda un po' il segnale, dimmi quant'è il segnale. 1, 2, 3. Allora, qui, Giulio e Gianni, qui arriva portante muta Santiago 6, modulato 7, quindi non ha cambiato niente qua, che come era massimo 7 prima, anche adesso è 7. Non capisco da 5 a 9 da coso. Vabbè. Natalino, fai qualcosa. No, da me arriva da 2 e arriva a 5. arriva a 5 attaccato. No, la radio c'è la differenza, anche la radio è molto più forte. Prima di arrivare a casa lo dico io la differenza, come? Ehi, Massimiliano, io Claudio mi ha detto al telefono che da te era aumentato da 5 a 9, qua il segnale è uguale. Boh. Che cosa vuoi dire che io? Non so cosa dirti. Qua c'è il video che canta da 5 a 9, da Gianni, perlomeno ci ha detto lui, da 1 e mezzo, 2 a 5, quindi non capisco, da te deve arrivare almeno 9. No, qua, portante muta 6, modulato 7, come prima. È aumentata un po', i picchi di radio sono aumentati, boh, e boh. E allora c'è qualche problema, tu adesso te lo dico io, quando arrivo a casa, tanto sono Claudio, quando arrivo a casa te lo dico io, a me mi arriva 8 con l'altro lineare piccolo, quindi con quello che è il triplo della potenza, minimo mi deve arrivare più di 9. Io non ne ho problemi in antenna, quello è il segnale suo che mi arriva, boh. Va bene, ma cosa avete, dimmi in fretta, cosa avete messo a posto? Spinotti, PL, cosa avete fatto? Non c'era niente da mettere a posto, abbiamo cambiato solo la potenza e basta. Ecco, mi, non tocca semi lui, perché poi se tocca butta a capo. Non tocca niente, ma è radio Giuseppe. E via, chiamalo, chiamalo. Oh Giuseppe, alta voce come Elia. Boh, a volte sente, a volte non sente. Giuseppe, ti sta chiamando Claudio, lo senti? Io vabbè, già lo chiamo da casa, le fa come le prove a casa, io ci ho tutto segnato. Capito? Comunque mi sembra strano che tu le davi 7 col lineare piccolo e continui a darle 7 col triplo della potenza. Gianni e Antonello hanno aumentato, da Massimiliano hanno aumentato, da te non comprendo, dai, a dopo, ciao. Qui non arriva niente, nessun segnale ho visto. E a chi non lo fa vedere, ciao Giulio. Ciao Claudio, no, ho ascoltato quando stavi facendo le prove con Gianni, e quando, anche, nemmeno quando era attaccato, che a Gianni gli arrivava 5 attaccato, qui non arrivava niente, va bene che c'era il coso, il QRM alto, per cui sarà per quello, che adesso staremo a vedere quando non c'è più il QRM. Comunque fra un po' inizia la partita, dai, io vi lascio, saluto a tutti, dai, alle prossime, che incomincio a scaldare il pallone. Ciao Giulio, buona partita. No, che partita è? Un po' più forte, perché prima... Ma lo faccio? Qualcosina lo sento più forte, qualcosina, ma poco poco, Vabbè, ma non fa testo, dai, già lo vedo io il segnale suo, io ho tutto segnato, quindi a me interessa che a casa mia arrivi almeno 9, più di 9. Mi sembra strano che Marco le abbia dato lo stesso segnale, comunque poi lo vediamo, dai. Sto scappando anch'io, ciao a tutti, passo e chiudo. Ciao, Cla. Che partita è, Giulio? Ah, ho capito, avete parlato in quattro, dai. Va bene Giulio, buona partita, dai. Buona visione di partita. Vai Gianni. Ciao Giulio, scendiamo. Il problema è un altro già. Giuseppe lo chiami, risponde, non risponde, risponde, non risponde, risponde, non risponde. Quindi esula dalle mie capacità. Vabbè, lo sento bene. Da Giulio non arrivava prima e non arriva adesso. Va bene. Riprendi, caro Natale. Sì, ma ci sono sempre la strada. Ma non si parla, questo qua. E tu vuoi andare alla così basso dell'attacco? Perché c'ho l'omologato, il microfono normale, cosa vuoi che esca forte? Cazzo, non posso uscire forte perché non è un microfono normale. Ma adesso c'è uscito video anche con il microfono normale, poco fa, sparisce dall'oltretomo. Perché sono abituato a parlare piano con le 1060, ecco per questo, perché il microfono da palmo non lo so usare. Oltretomba, come quel giornalino pornografico. Tu direi che è più vero, ma è salita. A aspetta che prendo la scala, via. Io li fregavo a mio zio da sotto il letto, oltre tomba, quello a fumetti, me. Zora la vampira, e poco erano belli, eh? Non li fanno più, purtroppo, è stata un'epoca interessante, li trovi usati da eBay, ma magari ci trovi le chiacce, le pagine incollate, già ci siamo capiti, no? Come salina, ti vede anche i però oltre tomba era il più bello per me, perché era il più satanico, il più, capito? Io avevo già questo gusto da metallaro, della roba satanica, messa al sesso. Sì, ne provate già da allora. È un po' simmi, con quella bambina che abitava, eravamo coetanei, tipo io 8 anni, lì lo stesso 8, salivamo in una cosa, lei mi faceva vedere la sua, io le facevo vedere il mio, erano bambini anche di stazione molto popolare, quindi quelle cose ci facevano. Una volta ci siamo nascosti sotto i cartoni, lei lo toccava a me, io lo toccavo a lei, quindi è vero, ero depravato già da allora. Tutti l'hanno fatto dei giochetti lì, perché cominciano gli istinti sessuali a una certa età e giocate al dottore, questo e quell'altro, fammi questi con le mutandine ammassate che ti faccio l'iniezione. Ehi, al dottore abbiamo giocato il terrazzino, un giorno esce mamma, vabbè, queste cose fatele fuori da qui. Sì, vabbè, giustamente ha detto uno psichiatra, un psicologo, che il bambino, se non è curioso in quel senso, è un bambino subnormale. È chiaro che interessa vedere come è fatta la bambina, no, come è fatta il sesso opposto. Se un bambino non è curioso è cos'è, un autistico. E comunque già, io ho iniziato tardi, a 21 anni, massimo 22, il primo rapporto mi. Sì, il primo 21 anni, ho iniziato ma tardi io mi. Marco, Uia, un posto alla radio. È uguale. E adesso? È bella, adesso va bene. Ok. Io avevo dimenticato che possedevo un MBC4 già pronto per questo. Ah, ce l'avevi già, ottimo, basta non alzare troppo, adesso è un bijou. E a 3 l'ho messo. Ehi, ehi, poi trovavi già, spesso in, sai, discariche, in case tutte dirocate, abbandonate, trovavi giornali in forno buttati, e noi guardando. E trovavo anche io in terra. Per strada i giornalini, adesso non più, hai notato? Prima li trovavi così, non lo so, è diversa la cosa, dai, adesso sai cos'è, non c'è bisogno di comprare i giornalini perché lo trovi su internet, ce n'è a buttarne, ed è gratis da guardare, una volta non esisteva nulla e quindi i giornalini erano una risorsa, poi non capivamo tanto cosa vedevamo, è chiaro. Non capivamo bene cosa, poi vabbè con lo sviluppo capisci di più. Anche i virus su internet sono gratis. Anche i virus. Eia, quando guardi quei film solitamente ti mettono un virus. E anche foto, bisogna stare molto attenti perché spesso cominciano a aprirsi pagine da sole, e allora bisogna chiudere tutto. Sì, sono pericolosi questi siti, infatti meno si va meglio è, meno si va meglio è. La radio com'è già adesso? Adesso è bella, adesso va bene. Sì. Ce l'ha 2,5 sistema di più 4. Adesso la radio presente, prima Mario Bucci va a vedere su 7 Lurico, parla di così, basta. E per non vi turbare, a proposito di pornografia, avete visto che a Sassari hanno beccato uno che si scambiava file pedopornografici? Dice 46enne, disoccupato, corrisponde anche alla mia descrizione. Avete parlato in due, dicete sopra calzettà. Di la tua già. Ho detto che praticamente si stava facendo una superstazione a Carino, era l'Italia Durana. Sì, andai a Dunza. Mi rompo le balle, pongo giù come intera a 50 watt, sono così intendente, e mi dico un 440, vai, toccati su. Lasciami che venga a controllarmi con la monogastra, da poi ve lo dico. Io ho detto, l'avete letta la nuova? No. Hanno fatto una retata e un sassarese hanno beccato, che si scambiava file pedopornografici. Età 46 anni, disoccupato, eh? Assomiglia alla mia descrizione. No, per carità, ci manca solo quello a me, così sono depravato completo, per carità. Naturalmente i nomi non li mettono perché prima di tutto bisogna indagare, a vedere se trovano le prove, capito? Perché poi fanno molte indagate, ma poi uno o due ne beccano di veramente colpevoli, almeno credo. Una volta le facevano da tipo 400 indagati, poi magari ne beccavano uno o due. Sai che la finata c'era dei tecnici che praticamente hanno dei sistemi per entrare dove ci sono questi siti pedopornografici, entrano, non passano, fanno un programma per scoprire il passo. Sì, ma quello è anche facile. Ho visto una notizia di un giornale norvegese, credo. Allora, sulla dark web, sul deep web, no, che non è accessibile dal normale internet, no? C'era il più grande sito di pedopornografia, sai da chi era gestito? Dalla polizia australiana, che per catturare gente rimetteva in circolazione video di schifezze del genere. E loro dicono che il fine giustifica i mezzi. Sì, però le vittime di quelle violenze, no? Non è giusto rimetterle in circolo, perché anche la vittima che vede magari la sua foto, cioè non va bene, cioè devono levarle da internet certe cose, non le devono ripubblicare per farsi i loro arresti, le loro denunce, i loro cosi. È scorretto, è molto scorretto, anche in Italia facevano così. Certe pagine che erano gestite dalla polizia, ma si sapeva già dai gruppi che ne parlavano su internet, capito? Cioè pubblicavano materiale corso per adescare le persone, e le vittime delle foto, dei video non ci pensano però. Erano minori, senza un bravo. Cioè, se c'è gente stuprata, piccola lì, perché vanno a rimettere in giro queste foto? Le devono casomai far sparire dalla rete. Non, il fine non giustifica i mezzi, mi dispiace, ma poi anche l'Australia è una, secondo me, scorretta come pratica, molto scorretta. La polizia australiana è rigida, guarda l'aeroporto, quello che fanno vedere la Dimas, eccetera, eccetera, quando fanno vedere in aeroporto come controllano la gente, non possono portare le roba da mangiare, niente di tutto questo, né cibi, né piante, né cosa ti posso dire, non possono portare nulla, se no ti fermo. Chi è avanti? Buon viaggio. Valerio, tu sì. Attenzione, Valerio, ascolta il doppio rumore, cambi. Vabbè, comunque un po' le polizie fanno quella cosa lì, anche se non va bene rimettere in giro, poi magari i genitori della... se lo lo sapessero i genitori delle vittime o i parenti delle vittime, che le polizie varie li mettono per gli scopi personali, capito? Per fare inchieste, per fare numero di indagati, numero di cose. Non è eticamente corretto. Guarda, portatore, se è successo dal vero, invece che su internet, c'era questo pedofilo che praticamente chiamava i bambini, poi si denudava, li faceva vedere le sue tricce. Che cosa hanno fatto? Hanno preso questo bambino, l'hanno messo come cambia e praticamente lui c'è stato ad andare con questo qua, c'erano i carabinieri nascosti, come lui c'ha tante cose, l'hanno preso e l'hanno arrestato. I genitori a mettere il bambino come cavia, metti che quello avesse una reazione violenta, prendendo le forze dell'ordine, tagliava la gola al bambino, cosa ne c'è? Può succedere di tutto. Mi spiace, i bambini non vanno nemmeno coinvolti in queste cose, nemmeno come cavie. Non va bene. Allora devono mandare una che sembri, che ne so, un agente diciottenne che sembri più piccolo. Non lo so. È pericoloso già, è pericoloso mandare un bambino come cavia, perché quelli, vedendosi circondati, possono reagire malamente, spezzare il collo al bambino, già ne sai, lo sai com'è l'uomo, l'uomo è una brutta bestia. Sì, l'avevano detto come comportarsi, magari nel momento che lui si stava pericoloso, lui scappa adesso, qui si intervenivano i carabinieri, capito? L'avevano detto come fare, no? Ma non è che l'hanno mandato così a fare, a parte che i carabinieri non si nascosti. Io gli avrei detto dove mi loro portavo per farli vedere dove lo ho portato, quindi sono andati lì, sono appostati. Lo sai che nell'inchiesta hanno beccato un magistrato di Messina, un magistrato, però stranamente hanno fatto nome e cognome i giornalisti, purtroppo come per la privacy, come non hanno detto gli altri nomi, dovevano comunque mantenere la privacy del magistrato. Non è giusto che se prima si fa l'inchiesta, poi una volta che si fa l'ultimo processo, allora puoi dare nomi, ma non così. E comunque pare che fosse più grave la cosa, pare che abbia fatto lui stesso delle foto autoprodotte, e quello è ancora più grave, perché secondo me quelli che guardano quella roba sono solo pippomani, capito? Non tanto, invece chi lo fa attivamente, quello è il vero coso. E comunque già c'è una contraddizione in termini, no? Si dice che sia una malattia, no? Ma allora se sono malati non possono essere arrestati, vanno curati. Se li arresti, se metti in galera, allora non è una malattia. Capito? Se è una malattia vanno curati, in centri, non lo so, psichiatria, quello che è. Hai capito? Io ho capito, non lo so, se siano malati o se siano vitti, cosa ne so. Aspetta un secondo che sono a vedere. Natalino, tu cosa li faresti? Io lo so già. Mitra, messi al muro e fucilati. La pubblica piazza per dare l'esempio. Aspetta, fucilato nella pubblica piazza per dare l'esempio. Però come diceva Gianni, non c'è una contraddizione, che vanno in galera, ma se sono malati, come dicono tutti, che è una malattia, allora devono essere curati. Non mandati in galera, vedi che allora non è una malattia come può essere considerata, una parafilia, come quelli a cui piace essere fatta la pipì addosso, la cacca addosso, che si fanno fare gli esperimenti addosso. Che schifo. Che schifo solo. Questa gente bisogna curarla in centri specializzati che noi non abbiamo purtroppo. Abbiamo anche i manicomi, sì. Più di chi sono voi? Purtroppo in Italia non c'è niente, non ci sono centri di recupero, non c'è. L'Italia è un paese è un paese che sta diventando del terzo mondo, l'Italia. La sanità lo spaccio, la scuola lo spaccio, le strutture non esistono più, i manicomi, quindi i matti li mandano a spaccio a ammazzare qualcuno. Ah, già sto uscendo, sì, perché non salgo i picchi. Mi sa che lo cambio, metto l'altro, dai. Metto l'altro così posso parlare più piano, esce più forte. Bene, fatemi prendere un po' di ossigeno, un po' d'acqua, dai. Già rientro dopo. È tutto acceso, tutta la sera è tutto acceso qua, Oggi mi fa male la schiena, mi fa male la schiena dalla parte bassa, l'attacco col bacino. Come ci siamo, Natalì? Tu col baccolo, io con la sedia a rotelle. Mia mamma mi si è risvegliato quel dolore lì, al femore, da quando sono caduto. Quello lì, come è cambiato il tempo, deve essere contribuito a svegliare il dolore, e ce l'ho ancora. Eccomi Marco, Marco ci sei? Sta cambiando il baracchino. Ah, e quindi la casa? Capito. Si dice che non gli servivano i picchi. Eccomi. Può parlare più piano dall'altro perché c'è più forte. Scusate un attimo, giusto che c'è? Ma non risponde, l'abbiamo chiamato più volte e non risponde. Forse non mi sente perché... non so, vediamo un po', Giuseppe. Vabbè, mi ha risposto, mi ha toccato al limite, Il problema non è l'antenna, è lo capo. Marco, fai la babbo, mi fai arrivare. Che può essere tuo padre, ok? Abbiate rispetto, è un uomo di una certa età e quindi va rispettato, ok? Come fate arrivare? Oh, Giuseppe, oh, vai, Marcino Lughiero, senti Giuseppe? Se senti Giuseppe? Perché non stava molto bene, Non vorrei che si sia allontanato la radio, adesso lo chiamo al telefono. Vabbè, comunque, Marco, le prove sono state fatte con tre persone, con Gianni, con Antonello e con Cervidio di Massimiliano, quindi... signor staccato, Gianni da 2, mi ha detto 5, Antonello staccato da 3, addirittura 6, quindi Massimiliano da 5 a 9, come fai tu a dire che non ha aumentato niente? Boh, mi sembra strano. Guarda Giulio, come non lo ascoltava prima, non lo ascolta adesso. Non fa testo Giulio non fa testo, non lo sente Alghero, non lo sente Walter Alghero, lo sente lui, non fa testo Giulio, mi preoccupi tu. Oh Giuseppe, già non è nuda, agganciato sì, vabbè già me ne occupo io di quella roba lì, dai, sì, 9 più 5, da 8 9 più 5, cos'è disturbare, c'era una radio fantastica rispetto a prima non ti sentivano manco di radio. Si è passato da 8 e mezzo a 9 più 5 qua, quindi per me hai aumentato alla grande, quindi da te Marco non ho aumentato niente, tu controlli se non c'è il RFG in chiuso, cosa vuoi dire? No, qua è tutto a posto, diciamo che di radio è migliore adesso, quello sì, ma non è che vi siete autoconvinti che è più forte di segnale, no? Marco, ma con chi stai parlando? Non ho capito. Con chi lo sente più forte, non è che vi siete autoconvinti, no, che arriva più forte. Afferma, Giuseppe mi senti a me? Natalino sono. A volte mi fai rimanere perplesso, autoconvinti, ma di così mi fa vedendi, autoconvinti, ti faccio il video e te lo mando quanto arriva qua, ci arrivava 8, 8 arrivava con l'ennare piccolo, e adesso è 9 più 5, con picchi positivi addirittura. Basso, adesso è più forte la radio, però è sempre basso di segnale. Ma non fate testo, non avete posizione per Alghero, non avete posizione per Alghero. Addirittura io pensavo che Antonello ad Alghero arrivasse quanto a me, e io mai non intendivo. Ok, ha provato con quel catamarano che c'ha e con l'857, arriva Santiago 7, capito? Santiago 7 arriva Antonello ad Alghero, eppure è vicino a me. Va bene, Giuseppe, comunque va bene, non ti preoccupare, ok, il segnale te lo sto dando io, sei passato da 8 a 9 più 5, e quello interessa a me, non mi interessa altro, ok, ciao a tutti, guardati per me. Giuseppe, quando sei in locale con Valerio, con sono pochi watt quelli, va bene? Lo so, siete tutti ad Alghero, come io mi metto a usare un kilowatt dentro Sassi, è la stessa cosa. Comunque, Santiago da 8 a 9 più 5, va bene? A posto. Dai, ci sentiamo dopo Giuseppe, ciao a tutti, QRT non riprendo più, ciao. Marco, sì, un attimo che sto pulendo qua roba. Io pulisci roba. Avanti Natalia. No, io la verità, il segnale che gli ho dato lo sento. Non lo frega la punta. Punta, sì, no, bisognerebbe, però io sto l'antenna bassa, Ma Marco, io per Alghero sono favorevole, è la verità. Ci arrivo Santiago no, dipende dai punti, però non sono molto favorevole per Alghero. La mia vorrebbe alzarsi un po' l'antenna per poter sentire e parlare. Se alzo l'antenna già dovrei arrivare. Comunque, Claudio Liscio, Claudio, come si chiama? Valerio Liscio lo ascolto, ma anche Giuseppe Liscio, insomma arriva, non è che per Alghero non sono favorevole, ce l'ho davanti, sto libero qua. Proverò con vari smitter, cosa volete vi dica, metterò l'altro baracchino, vediamo cosa segna. Vabbè. L'importante è, guarda, il segnale va già bene, andava già bene prima, va bene adesso, l'importante è che abbia radio Giuseppe. Anche prima sentivo radio 1, radio 0 c'era il derivabla, quindi tutto lì. Bene, vai Claudio. Claudio ha fatto QRT. Ma deve far roba? Non ha detto nulla, ha fatto QRT e poi. C'è la partita, è andata per la partita. Ah, già è vero, è vero. Che partita è però? Non me lo chiedere perché io non sono tifoso, no, non so nemmeno chi gioca. Il Natalino è tifoso sfegatato, mi di quelli che si straccia i capelli alla partita. Anche di più. Si straccia, dice, anche i peli del pupe. Lo guardo solo quando c'è l'Italia, adesso neanche quella perché mi fanno schifo. Via. Vabbè, se era in chiaro si poteva anche guardare per dire la partita. Ehi Gianni, tornando al discorso di prima, tu non avevi conosciuto una persona ambigua un po', che aveva fatto capire gli piacevano quelle un po' troppo giovincelle. Non ho capito, ma scusa. E una volta ci avevi detto che avevi conosciuto uno un po' ambiguo, no? Che aveva fatto capire che le piacevano quelle un po' troppo giovincelle. Non mi ricordo di aver fatto una cosa del genere, no, forse non lui. No, sì, uno di vista, non so, che faceva discorsi un po' così strani. Vabbè, non è importante, dai. C'ho un po' di mal di schiena, davvero. Uia, come ci siamo, Natalia? Eh? Andiamo, uno sorregge l'altro. Andiamo a braccetto, uno che sorregge l'altro. Facciamo così tanto il baccolo, ce l'ho io. Sì, anch'io, qua ci abbiamo le stampelle. Quelle proprio le stampelle vere, due. Poi c'ho il baccolo, quello retraibile, che diventa piccolo piccolo. Se facciamo il canale dei sciancatti, Oh Gianni. Adesso da Luciano mi faccio prestare la moto elettrica, da uno di quelli, di quelle macchinette elettriche, perché lui è disabile. E vado con quella in giro. Quella è carina, piace anche a mamma. Tanto perché la vuoi? Ehi, mi piacerebbe. Così gliela rubano sotto il naso. Oddio. Adesso si deve piazzare i pannelli solari per caricargli la batteria. Gianni. Sì, ho detto cosa vi fate per prendere la vecchiaia. Cazzo, sei pigliato vacuo, sei pigliato di ciampelli, cosa ti vi fai? Scusate un attimo, oh Giuseppe, ci si ascolta. Giuseppe, devo far spostare su 15. Evidentemente ha staccato, va bene, proseguite. Eia. No, sai cos'è? Le stampelle mamma ce l'aveva tutte e due, da quando andava a scuola che si era fratturata il piede, capito? L'aveva prese nove, ce l'abbiamo da un po'. Poi il baccolo retraibile, quello ce l'ha perché appunto c'ha l'artrosi dell'anca, quindi certe volte prendeva quello e camminava con quello. HP. Ma tu hai fatto capire che erano per te, per quello che ti ho detto, tu ti stai preparando la vecchiaia. Fra un po' mico, questa schiena mi fa male, tutta la schiena che ho, facciamo il canale degli sciancati, tutte e tre. Soglia. Io cresca Dio. Poi ci sono andato alla medicazione, c'ho un pochettino piccolo, ci sta tutto più lento, ma mi ha detto di non rientrare al lavoro, se no di nuovo da capo. E come fai a non rientrare? Ma infatti loro parlano bene, come capo lo fai? Non puoi andare. È solo che come lo sposti si apre di nuovo. Lui ha detto che è a Pisa e a Bologna, non in Gessa o cose così, di modo che il piede non si muova, mettono un ferro che lo tiene rialzato, mettono il gesso in resina, non gesso normale, il gesso di resina, se lo lasciano 3 mesi e in 3 mesi non è più tutto. Sì, è vero. Ho sentito che il gesso ormai lo stanno già sostituendo con una specie di sostanza resinosa. Ma come plastica risulta, boh. Magari fa traspirare male la pelle. O gira gira anche col gesso non traspira. No, non traspira no. Sì, beh, ti lasci tutta la pelle col gesso, se lo vedo che non traspira. Di pulito che ti viene, se queste cose qui perché non traspira bene la pelle. No, ma io gli ho detto, dottor, ma non è possibile farlo con lui, ha detto, se tu fai il salagisci qua, ti ridono le faccia, ti dicono, ma che cosa sei, fratturato, no, e allora che cosa si è brutta a fare? Non le capiscono certe cose, capito? Sono indietro milletti. Ha detto che addirittura lì i diabetturi, chi hanno accesso in rete, lo fanno direttamente i diabetturi di lavoro. Ah, ha già compreso, dai. Oh, yeah. Natali, vai tu, dai. Via, sono qui. Cazzo, sono lontano, adesso ti è comodo a parlare. Col microfono di tavola. Di tavola. Oh, di tavola, e allora? Di cos'è? Di comodino? Di tavola, Oh, io ce l'abbiamo, ma ce la fai. E dove? In via Usai. Non ho soldi. Quando mai? Sì. L'ho mangiata ieri sera. È andata mia moglie a comprarla ad Antonio, lì a San Donato, ma non c'è E ci credo, perché mi danno buono. Ma tu lo vuoi sapere quanto ho in tasca? 2,50 euro, ecco quello che ho. Bravo! Ti è sputtato tu. E tutto, e alla fine di pizzeria 15 euro, c'avevo solo 20 euro, a quanto credi che duri, no? Ogni tanto qualcosa te la prendi, c'ho 2 euro e 50, ecco quello che c'ho. Ha voglia vendere baracchini, non c'è mercato, non ne compra nessuno, ma proprio vendere baracchini. Devi vendere su eBay, ma è una palla, devi fare il pacco, devi... Uffa! Che baracca mi devi vendere? Il solito col frequenzimetro, il 3009 è il frequenzimetro a cifre verdi. E poi questo Alan 548CX con la modifica 120 canali della Intec. Che... E poi dentro mi ha detto... Massimiliano, che sostanzialmente è come l'Alan 48 e si presta molto bene a modifiche colte, quelle... quindi chi se lo compra se lo modifica, se lo fa colte, capito? Certo non lo tieni normale, il normale è un baracchino miserabile, cresce così così, un po' cupo. È l'altro che difetti c'è. Già da quando mi è arrivato, vabbè, c'è qualche saldatura fredda all'accensione, tipo qualche accensione su 100 magari può non accendere, però poi riaccende. Poi, vabbè, in mano laterale riceveva leggermente paperino, anche se centravi la persona la riceveva leggermente come vibrata, ma ha diminuito quel difetto. Poi vabbè, le FM, per ascoltare meglio bene una stazione bisogna girare il clarifier tutto a sinistra, perché secondo me non l'hanno tarato bene in fabbrica, non l'hanno bello centrato di frequenza, quindi bisogna spostare il clarifier tutto a sinistra per le FM. tutto lì, però per il resto in AM esce uno spettacolo perché c'ha il trimmer aperto. Ti capì? Sì, grazie, ma quello degli iscritti, grazie, io ce l'ho il maracchino per curare tutto online. No, io qua, ma io sono pignolo, se c'è qualche cosa non mi piace. Mi piace quando sono perfetti, allora te lo pago anche come si deve essere pagato, però voglio, diciamo, fare. Purtroppo quello dall'inizio ce l'aveva, dall'inizio, fatto, ma che cosa credi, che i cinesi li vadano a calare perfettamente, li buttano fuori come capitano, infatti costava tipo 2,45 credo, non me lo ricordo, sono intorno ai 2,50, sto dando 100 euro, non si può dare di più. Di meno sì, ma di più no. C'è gente che vende roba vecchia di 30 anni, se non 40 te la fa pagare a peso d'oro. Non so, una difesa che non fai, se tu ti vendi un Kenwood non ha mai perso il valore. Eppure lo deve perdere, perché ogni anno che passa ogni anno invecchia. Ogni anno invecchia, io quando lo compro lo devo rivendere a un prezzo leggermente inferiore, perché ce l'ho tenuto uno o due anni, è invecchiato per un altro uno o due anni. E non è come dici, allora gli appartamenti perché prendono valore anche se ce l'ho pubblico, e puoi vendere di più di quello che le pagate. Ma non lo so, per il mattone forse diverso, però l'elettronica bene o male poi si degrada. Per esempio tu mi avevi fatto un discorso, no, quando ho preso il K, ma dice, ah, io l'ho pagato 300 e te lo sto dando 300. Non funziona così. Io, come si chiama, non entra più adesso, Benito, gli ho dato a meno, capito? Gli ho scontato, sia apparecchio e microfono gli ho dato a meno, è chiaro. Se quell'anno, anno e mezzo o due anni che l'ho tenuto, è invecchiato. Capito? Più lo tieni, più invecchia. Cioè, quello è un apparecchio di 30 anni fa. Non puoi pretendere di... Vabbè, poi dipende. Dipende dalla persona. Per esempio qualcuno, la produttore che non entra più, manco lui, vendeva apparecchi tipo valvolare, un apparecchio vecchio come il mondo, amatoriale, come l'oro, capito? A peso d'oro. Ma qui chiederà anche voi, per gli apparecchi lì, puoi dire 140, meno di 300 non lo più. L'altro problema del 300 è perché è un pollo che lo dà così o perché dice che lo su, perché sennò è quello il prezzo giusto è quello lì, ma io come l'ho pagato l'altra sera non l'avevo ancora dato, e quello tu usciva un bel bene, non era di quelli di Sassari, scarsi abitati, infatti l'avevo comprato da costo, ecco, con i campioni, e era stato praticamente controllato tutto prima di spedirmelo, perché me li conosceva, c'era il marito che era tecnico e mi ha detto lo controllo tutto, guarda, poi mi ha telefonato e ha detto guarda già l'ho controllato, è perfetto, non c'è un difetto di niente, l'ho controllato tutto quanto, aperto, misurato, fatto, controllato tutto quanto, dice è perfetto. Il microfono magari ha detto è un po' scolorito, se ti interessa ti mando un microfono nuovo perché so che tu sei pignolo, e l'apparecchio non c'ha manco un graffio, è perfetto dentro, e così è andato, tu scendi un bel forte con quell'apparecchio, l'hai dato cazzo tu, io non capisco perché, se io te l'ho dato perché tu lo desideravi, se no non avrei nemmeno tolto la casa. Sì, ma sì, ho fatto l'esperienza del 140, però poi basta, non mi interessava più, preferisco i baracchini di lunga, molto di più, e quindi l'ho dato. Per esempio questo Alan, ma Midland, sì, buonanotte, l'Intec 548, in origine costava, c'era scontrino qua sulla scatola, 236.500 lire, in euro sarebbero 120 euro circa, io non è che dopo 30 anni lo posso vendere a 120 euro, sto dando pagando 50 euro, è anche troppo per quel baracchino. Non lo posso vendere a 100 euro come fanno certi, no? Che li vedi sul forum anche Roger K, 100 euro, ma vai. 50 euro è anche troppo. 50 euro sono 100.000 lire. Sì, ma il campus non costava 350 euro, no? 300 euro. E costava molto di più, eh. E ha tenuto quella quota lì perché aveva parecchio valido, e si è tenuto bene, sono di vita, se le cose in vita, se le paghi. Adesso se tu vai a comprare un pubblico antico, cosa lo paghi? 10.000, non lo paghi 10.000, lo paghi come ti dicono loro. Anche le macchine antiche, le moto antiche, poi con tutte volte di più. Vabbè, quello sì, ha ragione, costava non so se 1.000 euro o più all'epoca. E così come questo baracchino, io me lo sono comprato con i difetti a quasi 250, sto dando a 100 euro, non vale oltre, capito? Anche se poi per il resto è tenuto bene, ma noi siamo sempre solo sui 5, alla fine FM chi ne usa, SSB non ne stiamo più usando, ha voglia se ce n'è d'avanzo, quello è il trimmer aperto e esce molto bene. Però non c'è mercato, siamo quattro gatti già, bisogna venderlo su eBay, specificare, onestamente bisogna specificare tutti gli effetti che ha, non lo posso vendere come nuovo. Poi un giorno ho letto, uno aveva un, aspetta cos'era, era un Majorecco, no? Un Majorecco anche se in perfetto stato, non so se considerarlo vintage come i mobili. Lo stava vendendo uno di, era un tipo sul Roger K, 500 euro mi pare, Majorecco, quasi che costasse 350 all'epoca, 350.000 lire, adesso lo stava vendendo 500 euro, che sono però un milione di lire, lo stava vendendo più di quanto l'ha pagato lui, con la scusa che è un vintage. Marco, tu forse non lo sai, ma i Major sono apparecchi molto ricercati dai camionisti, perché sono modificabili e hanno una radio bellissima, con le modifiche, eccetera, eccetera. Li vendono così e anche quando li trovi, devi proprio farsi la croce perché non c'è nessuno di più, li vendono anche 700 euro. Vabbè, però diciamola tutta, tutti i baracchini sono modificabili alla fine, perché quelli che fanno le elaborazioni, qualsiasi baracchino gli dai anche un trodio di baracchino, lo fanno colt, lo fanno diventare un mostro, mettono dopo un duatore, diventa un mostro, quindi non sono solo i 48, i Major, tutti sono volendo modificabili alla fine. Sono baracchini che non valevano lo schiaffo, tipo l'M340, un M340 che proprio era un coso, un aborto di baracchino Inter, che lo stesso l'hanno trasformato in un mostro, dopo un duratore, con Colt, Bip Colt, per dire. Ecco. Ci sono i baracchini che sono più adattabili a certe cose, che si prestano di più a essere modificati. Avanti, prego. Avanti Luigi. Buonasera. No, Gianni, il Maio si lascia normale come nasce dalla casa ed è un bel baracchino, c'è un bel lecco, c'è una radio che spacca tutto ed è molto ricercato. Ti dico, dall'88 c'era un amico mio, comprato nuovo, dall'88. Se tu gli offri 1.500 euro, lui non te lo dà. Non te lo dà manco per 1.500 euro. C'era uno di Monti, poi ce l'hanno in tanti. Non si deve modificare, quello è già nato così, è già pronto così, non deve fargli niente, capito? Come il Colt che avevano i peschiericci una volta, quello lì, anche il vecchio non funzionante, lo paghi 700 euro, ed è un baracchino che poteva costare 100.000 lire all'epoca, 40 anni fa. E oggi quello se lo trovi anche usato, messo male, non funzionante pure, lo paghi pure 700 euro, un Colt. Sono molto ricercati, anche l'ARA 48, fra qualche anno vedrai che è raro, perché è raro trovarli. quelli, quelli li pagherai un mese di soldi, dico, dell'ara 48 a farlo, Ma io non ti ho pagato tanto adesso, comunque, quando sarà, non lo venderò perché quello lì è un affatto che a me piace, va bene, esce bene, e non lo vendo. No, però no, era solo per precisare il fatto del maio. Il maio non deve modificare, è già fatto, è già tutto, è nato già così, capito? Così il Colt è nato così, e hanno copiato dopo dal 48 quella scheda lì, però è nato, ce l'avevano in pescherice addirittura il Colt, capito? Quelli sono nati proprio così, erano nati così in quegli anni lì, capito? Non sono stati modificati. Se tu lo modifichi non te lo compra nessuno, perde il valore, capito? Se tu gli cambi l'eco vecchiale, cambi le cose, ha perso valore, deve rimanere con lo stesso colore, se si può, anche le luci che c'ha, deve rimanere per avere il valore, deve rimanere originale come è nato dalla casa, e lo paghi un bel di soldi, costa un casino di soldi. Avanti Marcoli. Ma fammi assentare. Vabbè, comunque io sapevo che era molto ricercato dai camionisti perché usciva bene. Adesso non lo so, ho pensato che modificassero anche quello, però se mi stai dicendo così vuol dire che esce bene già. Sì, copiano da quello, cercano di fare quell'effetto chitarra elettrica, cercano di copiarlo quella scheda lì, farla su altri apparati, capito? Però quelli sono belli originali, come il Maio ce l'ha coso, Martino Gallurese, quello di Buduni, di San Teodoro, c'era Andrea Cano, Andrea Pizzi, così chiamato, e ce l'ha dall'88 lui, addirittura in camion, e non vende manco se gli dai, se tu gli offri 1500 euro, non te lo dà, neanche 2000 euro, non te lo dà, perché ci ha provato tanta gente se glielo vendeva, e non glielo dà, capito? È una cosa, sono molto ricercate quelli lì. Io mai ho avuto un portatile, che forse un portatile così belli non ne ho più visto. C'aveva i canali, c'aveva l'attacco per il microfono, era tutto in ferro pieno, proprio di chissi, bello, bello, proprio apparentemente era proprio bello. Che parlavo con quello lì all'inizio, c'avevo l'antenna esterna, parlavo con l'Alghero, arrivavo a Santiago Nove, avevo 80 canali. Excalibur, bello. Esatto, sì. Quello lì era bellissimo. Io penso, Marco, che portate di così quelli non ne ho più visti. Sì, era il migliore. Era alluminio, era tutto il telaio in alluminio. Adesso sono tutti di plastica, ma da tanto sono tutti di plastica, giocattoli sono. Quello era veramente un bel apparato. Attacco cuffie, attacco antenna esterna, attacco microfono a quattro poli, indicatore di canale a LED, era un super, era il baracchino portatile per eccellenza. E un coglione me l'ha bruciato, scusate il termine ma mi è uscito, me l'ha bruciato davanti a me per sbaglio. Però per fine l'hai buttato lì. Io però lì l'avevo venduto, non mi ricordo a chi, però l'avevo comprato alla GPC, l'avevo trovata alla GPC. L'avevo comprato, l'avevo pagato la banca di soldi, ma era un apparato che mi aveva riservato da quando ce l'avevo. Gigi, e tu a te cosa ti è rimasto di apparato modificato? Io già ne ho anche troppi ne ho. Solo che non ho anche messi da parte, c'ho anche lineari, anche piccoli, grossi, c'ho lineari grossi pure io li messi da parte, c'ho quelli del camion, quelli 750, che erogano 600 watt, va benissimo senza problemi, però sono 24, quelli ne ho due messi lì di camion, poi ne ho a 220 che è sempre a transistor, sempre con... mi supera mio figlio giù cantando che mi supera e mi fa e non riesco a concentrarmi, si sente e canta, non so se si sente la... si sente? Sì, sotto il fuoco però, si sente. E tu non lo stavo andando a casa, giù non ce l'hai più vero? No, ma lui è giù nell'appartamento di giù e sta cantando, sta suonando e cantando con la tastiera e ogni tanto va a fare serate, ma forse stanotte, però per fare i punti di Dallella. positivo, ha ragione di questo. Adesso per esempio questo Dallas, io non lo vendo, ma vendendo minimo mano a mano di 400 euro, per i soldi ci ho messo sopra, per com'è questo apparato qua, hai capito? Perché se io ti faccio vedere questo attaccato agli strumenti, tutti spaventi adesso, con 4 watt cosa ti dà di cosa picchi ti dà di fa. E ho già fatto dei lavori io, ci ho fatto fare dei lavori, l'alimentatore non c'è, c'è un switch all'interno, capito? Da 50 ampere, il suo, quella bobina grossa non c'è più, capito? C'è, è stato cambiato quello, i finali sono i suoi, però sono stati fatti tutti quei lavori, capito? Non lo do più quello lì, ed è questo che sto parlando adesso. E questo c'è anche nel concorso, Questo c'è tutto già, sì, c'è tutto già, però adesso è proprio al minimo più bassa potenza possibile che possa esistere, è chiuso a zero completamente. Quello al massimo guai, ma ti basterà al massimo, non è? In AM sono sui 37-38. E la barra laterale tu? E vada a laterale, questo c'era quel problema, se ti ricordi quando tu scendevi di cosa si abbassava così a di fatti, giusto? Invece adesso non si abbassa, è tutto uguale, perché questo era il tuo, mi pare, una volta, se non sbaglio. E niente, adesso mi aveva messo a posto questo fatto qua, che quando passavi di cosa si abbassava di fatti, adesso è tutto uguale, capito? Sì, te l'avevo detto io. Se lo vedi adesso, come adesso, è nuovo, fa tutto bello a nuovo, dentro tutto ripreso, tutto. Sono state tolte tante cose, messe altri componenti nuovi per fare, perché questi se tu vai in internet li vedi come le cambiano, cambiandogli l'alimentatore, perché ha bisogno di quella corrente più continua, più forte, capito? Necessita questo qua. E allora, lo vedi, se tu vai in internet vedi le modifiche che le fanno a questi qua, capito? E poi vedi cosa ti dà picchi di radio, una cosa impressionante. Quasi quasi riesco a farlo io questi lavoretti, però l'ho fatto fare, tu lo sai, l'ho fatto fare da chi ha fatto quel baracchino, quello è stato fatto a Napoli. L'ha fatto Roberto, già lo conosce Roberto, quello di Inglesia, dai. Ah, d'Inglesia, sì. E quello mio chi l'aveva fatto, quello che ti ho venuto a me? Quello di Sabattino, è uno dei migliori che c'è. Sabattino a Napoli, quello è uno dei migliori che c'è, Sabattino, che ci ha fatto il Pruzzo, che io ho il Pruzzo, il Pruzzo è un altro mostro, c'ho quel Pruzzo io che poche parole c'ha i finali, come può essere quelli del 7-4, come si chiama, quello lì c'ha quei finali lì a morte, c'ha due finali a morte, anche quello c'ha dei picchi allucinanti, c'ha le cose sotto, le spazzole del calore dietro, c'ha il linearetto dietro, dai. E quello l'ha fatto Sabattino, il brutto. Marco, lo vedi? Marco è buio. Chi c'è, Natali? Ehi, ciao lui. Ciao Natali. Quello si può, solo in macchina può andare, quello lì, perché in camion l'alimentatore mio era da 20 ampere, però non ce la faceva portarlo, e il camion non lo mettevo mai, quello lì, perché ci vuole corrente diretta dalla batteria, per cui, perché c'è un molto assorbente, c'è cave grosse, quello lì, capito, e assorbe più di un baracchino normale, capito, e niente, e quello va bene, quello va benissimo. Sì, ma poi c'ho quello con lo squalo, il tornado, c'avevo sempre in camion, quello che sentivate sempre in camion, quello c'avevo qui a casa, vedevo fatto la macchinina tutto illuminato, me l'ho io. Quello che c'avevo in camion sempre ultimamente, gli ultimi anni, c'avevo sempre quello famoso che ascoltavate, era il tornado, tipo il tornado, dai. Ma comunque anche il guida andesce bene, dalla 48, cazzo, secondo me è uno dei pochi che si possa modificare il lusso, è uno dei primi almeno, dei pochi, magari ce ne sono altri, però sentito con tanti apparati, però col coso, con la lampada tutto il piacevole. Lo sentivo, adesso lo faccio sentire. Avanti, binario 10, cambio basso. Senti, avanti, questo è il 48. Ah, vedo, quello che ho usato il necco, Attenzione, binario punto 10. Sentite sto vulcano Gigi nella zona di Sassa di che modula, cambio. Se è normale, abbiamo messo normale o vale. Sì, ma che normale c'è forte. C'è la radio, ma il microfono normale si usa. Positivo, quello normale. Vuoi sentire il 48? Sì, a poco lo sentito. Vedi un po', Gianni doppio ru, questo è. Questa è l'ara 48, capisci? Il fratello di quello che c'hai tu sempre sabattino. C'è bene. C'è bene anche il gara, ma 48 c'ha forse qualcosa di piccola. È positivo, dai, questo non lo rompo quasi mai, sempre qua. Qua sempre fermo. Ma ti faccio sentire il Pluto. Il Pluto era quello di Maestrale, Salvatore. Ah, e lo sai che si è piazzato un negozio fuori in cose, no? Oggi. Oh già. E io? Stavo collegando il Pluto, questo è il Pluto, vedi? Questo è il Pluto, cambio. Ma c'è ancora più forte. Ho detto, ma sai che Salvatore ci ha aperto un negozio in Austria? Sì, lo so, lo so. Questo perché c'ha il linearetto lui suo, capito? Quelli erano lisci, questo c'era lui il linearetto per il fatto del calore, capito? Ecco perché è più forte. Ah, ecco. Qualcosa c'era. Vabbè, comunque è bello. Dove bene. È positivo, regolabile, infatti, quelli del linearetto sono regolabili. Adesso sono 4 watt di portante bianca e 70-75 modulati, cambio. E vabbè, lo puoi fare direttamente anche con lineare esterno, una cosa del genere. Positivo, però questo ce l'ha già lui fatto da dentro, lui non ne ha finali dentro, questo finali suoi non ne ha dentro. Come va con i finali del lineare? Positivo, ci sono le cavi grosse che escono fuori, dove c'era il lineare non ci sono più, dove c'erano i finali suoi ho visto che non c'è niente dentro, sono stati tolti e funzionano, l'ho perotta direttamente quei finali lì, capito? Finali a morte. Positivo e caporoggio. Andale, e poi divertito ti sei quest'anno 45. Ah, non molto, ci sono quasi mai in radio. Infatti che questo lo fermo è troppo forte, tanto non. Accendo l'altro, quello più selettivo, più calmo. Però vengono a lamentarsi. No, ci viene nessuno. Però no. Ma non sto mai adoperandomi, questo io anzi, se ho trovato me l'avrei anche venduto questo frutto, però. Questo è in macchina, in stazione non fa bene perché se lo metti in casa disturba questo, perché è un bel forte. Stavo parlando l'originale perché voleva sentire un amico suo, no? Qui a Vidalba, dava arrivava che è una meraviglia lì, senza problemi. Penso proprio, e questa è una bomboletta in macchina. Oh, c'ho quelle antenne, c'ho qualche antenna, c'ho quella 5000 che stavo facendo vedere, l'altro la 5000 ce l'ho sempre, quella è sempre. È una buona antenna, è solo di rifatta la cappotta. In macchina non fa. Io ho cambiato anche la PNC, ma ho messo la PNC 800 perché quell'altra mi stava facendo là, ho preso un albero, cazzo, per tal cosa come mi ha piegato la cappotta. E allora per ripristinarla ho messo l'antenna di nuovo, l'ho attrezzata, la cappotta l'ho mossa e si è attrezzata di nuovo, però nel senso che la protezione è troppo grossa, è troppo rigida, tanto come l'antenna. E invece che piegare l'antenna si sfascia la carrozzeria. Ma ho capito, ho capito. Oggi ho fatto altre due, perché l'ho messo in opera altre due alimentatori, entrambi da 8 ampere, 8 ampere l'uno però, 8 ampere ognuno. Ho fatto altre due oggi. Ma avete dei computer? No, sono di coso, sono delle macchinette mangiassolti. Ah, che hanno alimentato all'interno? Sì, poi le modifico, quelle bruciate quando so cose invece le buttare le sto recuperando io, le sto cambiando i pizzi, le sto mettendo a posto, capito? Poi le posso fare quello che... Allora, quelle da 8 ampere se la accoppio, le accoppio assieme, faccio 16, faccio, ne metto 4, faccio 32, posso fare quanto voglio. E poi fa anche 24, attenzione, anche 24 fa. Però posso fare anche con quello del computer 24, le accoppio tutte assieme e faccio... Però con quelle lì faccio prima, dai, faccio prima, sono più bellini. Li sto facendo mettendo a posto, perché ne ho messo in ordine due, ho cambiato tutti i condensatori che c'erano bruciati, scoppiati. Ne ho fatto altre due e li ho messi lì, ne ho venuto un mobile pieno di calimentatori. Poi le accoppio tutte assieme, quelle le sto parando tutti precisi. Tutti a 12 e qualche cosa e poi le accoppio assieme. Poi arrivano fino a 13 e 13 e 6, 13 e 7 arrivano di più. Però sto lasciando a 12 e qualcosa, a 12 e 5. E poi le accoppio tutte assieme e faccio un alimentatore enorme. Sempre inventando. E rimetti in parallelo, capito? Tratta di avanti, Gigi, l'invento è fatto. Oh, yeah. Gigi, ci riesci tu a farmi un baracchino che non faccia più guai? Non ho capito se riesco a fare un baracchino che non fa più guai, no. Non c'è bisogno, non è colpa del baracchino, è colpa dell'impianto, chi ce l'ha l'impianto. Io a casa qua posso mettere anche 700 watt, a me non mi dà nessun fastidio. Basta un baracchino normale che è un'antenna che c'ha giù mio figlio che attacca la televisione, questa antenna qua. Come attacca quell'antenna lì, basta un baracchino normale, schiaccia la portante, boh, li blocca la televisione. Un baracchino normale è omologato, gliela blocca completamente. Dipende sempre dall'impianto. Tu già lo so, stavo scherzando. Ma sei tu, io sono, già sono io, adesso faccio vedere una cosa, vedi, guarda, la televisione accesa, aspetta che rimettiamo 600, mandiamo 600 watt, guarda se fa una nulla, non fa una riga, una piega, niente fa, 600 watt ho provato e non attacco mai, però glielo attaccate per fargli vedere, a lui bastava un baracchino normale, poi c'ho un portatile, sono sceso giù, schiaccio il portatile e blocca la televisione col portatile. Oh, yeah. Io disturbo. Uscire con questo monogatto qua e sì, ma basta che sia fatto, allora le cose loro devono avere nei amplificatori, quegli amplificatori di antenna, queste, io ce l'ho pure me e non fa nulla, pensate che il cavo dall'antenna sia fatto come si deve, messo come si deve, né aggiunture né quelle, se no te dà fastidio. A me è successo un giorno che avevo quell'antenna che scendeva giù in garage, poi avevamo avuto le cose metterci la televisione. E cosa ho fatto io? Perché quello dell'antenna era grosso, del baracchino, giù in garage. Allora cosa ho fatto? Gli ho messo un bel... Gli ho attaccato con un nastro, con le graffette, gli ho fatto quello dell'antenna, la televisione, l'ho messo giù. E cosa succedeva? Anche se non era, c'era un baracchino giù, ed era attaccato il cavo qua su, schiacciavo la portante e chiudeva la televisione giù. Ho attaccato il filo, risolto il problema. Dal cavo dell'antenna me l'ho attaccato, l'ho tolto e non lo faceva più. Vediamo, io mi sto facendo un'antenna nuova, vediamo un po'. E tempo fa non ero io disturbato, erano altre cose, casa nuova, questo impianto nuovo dall'internista, ha fatto tutto il pianto, il coso fino allo scantinato di giù scendeva con tutto l'impianto centralizzato, ma questo non vedeva la televisione. Poi siamo messi d'accordo per vedere, ho detto io, tu mi dici non stai guardando, io provo a staccare il baracchino a vedere se tu... E un giorno, siccome è molto amico di me, si per favore, mio figlio, perché lui aveva fatto la aveva chiesto, è andato lì, prima è andato via Brigata Sassi, via Brigata Sassi, e ha detto no, dipende da Cagliari. Allora ho voluto fare la richiesta a Cagliari, facendo la richiesta a Cagliari, dovevo fare un versamento quasi quasi, mi sembra che intorno ai 600 euro di versamenti, per fare muovere a loro. Seguimi a Cagliari, alle telecomunicazioni, deve fare un coso lì, ti danno loro lì in via Brigata Sassari i cosi e tu fai questi versamenti a Cagliari, 600 euro deve fare per venire a controllarsi. Però cosa gli hanno detto da Cagliari? Di controllarsi lui prima, perché loro scendeva, facevano per 4 giorni l'appostamento, gli hanno detto, facciamo l'appostamento, se noi non rileviamo nulla, dice, poi la multa, lui la paga lei. La cosa che dove se trovano uno in flagrante lo fanno pagare, però dice prima dice di far intervenire lui, si controlla bene l'impianto, perché poi la multa se la paga lei a parte le 600 euro che deve fare per fare muovere a loro. Allora cosa ha fatto lui? Poi mi ha chiamato, perché non ce l'ha detto così, ed ero, dice non vedo la chiama, Pierpaolo, mio figlio, io ero ancora a Pallanza rientrando a Cagliari, e tu guarda io sto rientrando a Cagliari, Pierpaolo. Comunque quando arriva a casa se vuole accendere, provare, e lì si è convinto che non era più io che lo prendevano il coso, le antenne dei telefonini addirittura a lui. Cosa ha fatto? Ha chiamato un altro antennista nuovo, ha controllato, poi un po' di giorni mi chiama e mi dice il problema era quello che mi ha fatto il lavoro, mi ha preso un po' di soldi, mi ha fatto l'impianto e me l'ha fatto male. Ho risolto il problema, dice, non c'ho più nessun problema. L'hanno rifatto d'ora l'impianto nuovo, un altro antennista, hai compreso? Si è passato tutto da capo e ha risolto il problema, gli ha risolto un altro antennista, capito? E a me mi hanno minacciato che mi chiamano verso apposta, sto parlando apposta con l'avvocato, così se mi dicono che ci torno da là e da voi non ne vedi ne arrivo televisione, non si può andare a posto l'impianto, allora gli chiudo a vero, perché adesso sono con l'omologato, tranquillo, capito? Vai tranquillo che non mi chiama, io sono via di Napa a pagare, ed era disposto a pagare le 600 euro pure questo, poi sono via di Napa a pagare, uno si è convinto da voi. Natali, per farli muovere, appartiene a Cagliari, ci vogliono 600 euro di versamenti, loro devono pagare, se poi loro pagano questi 600 euro e loro vengono a fare la portata e i problemi sono sui, il verbale grosso lo pagano loro, due, ricordate questo. Ma lo so che gli mettono la multa, è colpa di loro, gli mettono la multa, perché loro l'amplificatore prima cosa non lo possono ottenere, ce l'ho anche io l'amplificatore, nell'antenna TV mia, però io la mia non la disturbo, e poi è sul palo di quello che disturbo l'antenna mia, quindi l'antenna che è andata a farsi benedire è quella di quello lì. E ti dico una cosa, Natali, io ho l'antenna sotto, l'antenna della televisione, sotto l'antenna, attaccata al palo, sotto l'antenna della cosa di Giamma, deve trovare a chi nome. Ce l'ho sotto, non è che ce l'ho attaccata, ce l'ho attaccata lì, la mia. La mia antenna TV è attaccata sul palo di quello che io disturbo. A me non mi disturbo e a lui sì. Vuol dire che c'è l'antenna messa male quello lì. Basta, una massa non buona, una cosa gliel'ho fatta. Ecco perché glielo fa, è per quello Natali. Ricordati una cosa, che tu può passare per altri motivi, io lo so da questo, siamo molto amici con questo qua, e lui ha risposto, dice io non riesco a vedere la televisione, me l'ha detto, mi ha detto queste cose, gli ho detto non sono io, e allora lui voleva fare cose, ci sarà telefono, quello che c'era questo disturbo e non riusciva a vedere la televisione, e non riusciva a vedere le partite, a vedere nulla. E allora si è risvolto, voleva risolvere questa cosa a tutti i costi, voleva, dice mi intesa, spendo quello che è, prima la televisione la devo vedere. Succede quello che succede, dice, però devo vedere la televisione. E lei ha risposto a pagare le 600 euro, ma quelle poi gli hanno spiegato bene. Allora, tanto per farle venire devono spendere 600 euro, devono fare questi versamenti. E lì non penso che uno ci butti 600 euro così facilmente. Questo ce lo buttava, perché non gli interessava buttarci 600 euro. Perché ce le ha i soldi, voleva proprio fare... Ecco. Poi l'hanno convinto questo dell'ecoposta di Cagliari, di controllarsi l'impianto lui, perché se intervenivano loro, tanto prima controllavano lui, e il problema era suo, 24 giorni di appostamento li pagava lui, mi capisco, li pagava la contravvenzione, questi soldi doveva pagare lui, e allora lì ci ha rinunciato lui a fare questo. Se glielo dicono, perché la colpa è sua, questo dice che è tecnico, che mi chiama le scopporte, dice che non vede la televisione, neanche il computer, dice li blocco anche il computer. Il computer non rigrido. No, io sai cosa faccio, cosa fa la mia? Quando attaccavo gli strumenti, tutti gli amplificatori, queste cose, quelli vidi, quelle cose, io so, per chitarra elettrico entravano le casse loro, quelle casse enormi, quello sì, quello lo faceva quando loro si mettevano a suonare giù, mio figlio. Io accendevo un lineare, però non baracchino, ecco, un lineare a tempo anni fa, quando facevo, attaccavo per parlare propagazione, entravo giusto chiaro chiaro nelle casse, capito? Quello che fai con i microfoni a distanza. Quello sì che lo fa, ma basta filtrarli e non disturbi più. E vabbè, forse a chi se devo fare, io vado, non me ne ha fatto un cazzo, va. Anzi, solo perché mi ha minacciato lo faccio a posto. Aspettate, se ho omologato, l'ho omologato, ti facevo dare sciù. Andate, dai ragazzi, vi devo salutare, dai, devo fare altre cose. Prima mi stavo ascoltando, ma stavo facendo, prendendomi con gli alimentatori, dai, me ne ho costruito altre due. A posto, niente, dai, va bene, dai, salutoni a tutti, dai. Ciao dottor Lu, e Marco che si è addormentato e via dicendo, compagnia bella, ciao a tutti. Ciao, tra poco cazzo vorrei piantare scedi con gli alimentatori, ovviamente. Sono la bancarella. È positivo, dai. Ragazzo, dai. Ciao. Avanti, Marco, che ti scedi? Mi era addormentato. Non l'avevamo capito, era tappignata. Di svegliare, ti addormenti. È malefico quel ratapignano, è malefico. No, è un usuraio, perché sfrutta le nostre voci per rilassarsi e per addormentarsi, capito? Lascia il baracchino acceso e piano piano si addormenta. Allora gli facciamo pagare la tassa, cazzo, sfrutta le voci per rilassarsi e addormentarsi. Grazie, senza pagare biglietti. Ti concediamo il sonno, Natalia, ma te li mangi. Mettili fuoco. Sai cos'è? Avevate fatto un po' di ping pong, io piano piano, la testa è calata, l'occhio si è chiuso, e così, dai. Mi ha pomponio, mi ha fatto tutto il lavoro. Più o meno. A pezzi più bello si è spaccato il collo, cazzo. Avevo dovuto smontare tutto il monitor del televisore, tutto, la prima piastrina, quella di sotto, eccetera, eccetera. Come stavamo prendendo l'ultimo pezzettino della cornice, abbiamo sollevato la pera, boh, treppato lo schermo, boh, fanculo, cazzo. Vedete, glielo sono andati accendendo. Un telefunkale, un televisore telefunkale. Di quelli a modello vecchio a leggere. Scusate, sto notando un QRM elettrico forte, che prima non c'era, proprio un QRM elettrico, a Santiago 8 di quasi di QRM, vabbè che siamo tutti vicini. E quindi, Natalie, in teoria tu sei innocente, tu sei l'avvocato, e basta, poi l'hai già spiegato tu. Tu al tuo televisore, vedi bene, c'è l'antenna lì, quindi è facile dedurre, dai, vai Luigi. Luigi, l'unica cosa che vi possono contestare è che non abbia l'antenna attivata davanti al televisore, quello della posizione. Certo, per esempio la mia è dietro, prima di tutto dietro, le antenne che sono sul parapetto ed è più in alto. Non molto, ma un po' più in alto, infatti vedo che qua tutto tace, nessuno mi ha più detto niente. E poi sai, con i baracchini, cioè finché metti un, sai, un 48 volt, quelle cose che hanno emissioni molto forti, chiamano spurie armoniche, anche l'omega posso capire. Però con questi baracchini, anche se il trimmer è aperto, non ce la fanno a disturbare, capito? vanno abbastanza bene, dai. Adesso, visto che vi sto usando come soporifero, vi devo pagare la concessione annuale, capito? Sì, non è che mi esprimo. 24 non è 12. Sempre 12 a te, 12 a meno, perché l'abbiamo fatto aumentare. Ah, sì. Ma adesso il caso, guarda, ci devi dare 250 euro bisogna fare la concessione, almeno lo paghiamo per 30 anni e non ci rompono le balle. Ah, va che pare di nano, concessione perpetua. Allora, concessione perpetua. Com'è questa radio? Sì, già è buona. Non è 5 forte, forte, ma già va bene. Sì, forte. Già sta è a 2,5. Già va bene, comunque, visto? Ti ha dato la colonnina, almeno riesci a sentire come i cristiani. Ma vedi come riceveva, sta lontano. Cazzo. Dove già mi ricappava? Beh, quella che avevo trovato, me lo sai quelle colonnine, trovate in mezzo a casa, non l'avevamo detto, se vuoi sapere. Vedi, figura di tu. Io quello di già ho parlato in garage, non per baracchino, ma quelli grandi. C'ho due amplificatori da fare fuori, che non ne faccio niente. Qui non posso mai usarli. Allora guarda se c'è stato a trovare un lavoro di ad ammini l'autonominio, ne ho le balle piene, guarda, c'è la strumentazione, non posso usarla. Amplificatore per l'impianto stereo da 100 watt che si sta vivendo, un altro da 200, ne ho, c'ho le casse grandi. Se qui attacco la radio, immediatamente mi bussa il muro. Quelle casse grandi, l'amplificatore mi servirebbe attaccare qualcosa per fare casino qua. Questi è già stanno nella musica e a subuio. Volevo dire che intendimi di più. Ma prima, sulla tua portante, sentivo musica. Chi è quello di fronte? Sì, che metto una manetta, cazzo, gira, me lo faccio passare da lì. E metto musica per sognare. Faccio un casino, un cazzo, che la mi dai vasta. Un cazzo ne sentono musica loro. Ehi, col bel linearetto, me, che li entri nelle casse e gli dici abbassate la radio, cornuti. Che mi state rompendo i cabasini. Papa? C'è gente sul canale 1 PNR criptata, col codice in versione di banda. Ehi, ma io ho il servizio di normale, e tu no. Manco per le basi. Aspetta, è raro sentire gente col codice, col, come lo chiamano, scrambler vocale, in versione di banda. Adesso vado subito a fiaggare, io ce l'ho e c'ha l'inversione di banda, vado ad ascoltare, poi dico, beh, mica non mi tenni di ciuno, mi. Ah, tu canali uno che è merda, non ti do ciuno io, comportate. No, per un attimo hanno parlato, per 2-3 secondi, poi non più, può darsi che siano in zona anche. Sì, può darsi che sia anche la questura. Sono contento. Eh beh, qua stanno tenendo d'occhio un uno ai domiciliari. Che situazione mi hai messo? Ehi, qui di fronte a me, intanto vengono mattina e sera qui a tenere d'occhio. Eh beh, giustamente, ha sgarrato e paga. Ma il tuo posto? Ehi, proprio di fronte alla mia porta. Un piccino, Emmy, poi non ho capito chi è, perché di faccia non l'ho mai visto, non sono riuscito mai a capire chi è di faccia. Perché qua è un via vai di gente, lo sai, un via vai, non ho capito chi ci abita. Secondo me quello che affitta, secondo me fa l'affitta camere. Sì, o fa faccio di droga, se la gente che fa roba, o non fini, ma si sta sbirciando, catta le cose che non gli interessano, questo mazzo. è un piattino, è diabolico, capito? Anche se fosse altrettanto sulle tre scuole, lì è stato fare diabolico, anche su di ce l'ho anche io lo scrambler nella, in quello col DC azzurro, ma non è più qui, ma giocava a giudizio, non è lì che vuoi davanti. Sì, quello è un ito quello che c'hai. No, gli hai i due. Sempre sui diritti, cosa cazzo attacco? Me ne busco uno più buono di omologato, magari, perché questo fa anche lo tifo, mi fa. Ma è quello che mi ha mandato la fotografia, è anche un video di YouTube, lui, è un buono laghetto. Ah, che piccolino, è una scatola di fiammiferi, il laghetto ce l'avevo anche io col Tarnet G2. tempo fa io non li stava facendo così, quando erano piccoli giocavano tutti e due. Adesso che sono diventati più grandi è meglio non avvicinarlo perché io sa che si lo mangia. Vagna capo, cazzo, uno di gli sta forzai, e anche il mio. Si chiama Tyson come il tuo, si chiama quel pitbull. E però vedi, cazzo, lui gioca con quella femmina di pitbull che va ogni a capo, è mostruosa, si è accorta che lui è cucciolo e non gli fa nulla. Ma le femmine sono più capricciose, cioè lui è maschio, e le femmine non gli va di nulla, perché anche in Italia con le femmine non ci gira, ma se sono maschi va a pelle, alcuni ci gioca e alcuni si gira, perché dipende sempre da... Infatti io quando io incontro sempre la coda, quando scontro la vuol dire che lui può giocare, se non ti dritta vuol dire che lui è su chi va là. A drizzare bene vuol dire se lo vuoi bagnare. E poi li ci fanno, visto nel coso, proprio sotto il tubo, tra la testa e il tubo, li ci fanno le righe come lo squalo quando si cade. Mamma mia. Le righe che c'ha lo squalo, quando per respirare le branche, le viste come si cade, così li ci fanno al tubo. Ah, lo sai che sono andato in quel negozio dove c'è il pesce, quello vicino a Giulio, a comprare le bustine per Kurt, quelle quando fa i suoi bisogni, no? Là due di questi cani grossi, va. Invece era lì uno, là due, e uno mi stava abbagliando, cazzo. Già lo so, sì, da. Sì, c'era la prima cane corso. No, ha fatto sempre dopo del Bordeaux, prima ne aveva uno, gli ha morto il cancro, praticamente non glielo volevano operare, a Sassa è andato di domenica a Cagliari dal suo amico veterinario e là ha detto se vieni però mi devi dare una mano. Ok, va bene, andiamo alla sera. L'hanno operato, un po' quanto, e gli ha tolto tutti gli organi furi, ha detto che gli ha tolto. L'ha tutto controllato e cose, gli ha tolto il tumore, l'ha ricucito, è stato 3 o 4 giorni che stava male, poi si è ripreso e sembrava tranquillo, era normale. Poi dopo un po' di tempo di nuovo ha avuto una ricaduta ed è morto. Allora la sorella, Patrizia, gli ha regalato, perché l'ha visto molto triste e cose, gli ha regalato un dottor de Bordeaux, ne ha due belli cazzo. E si può fare anche l'allevamento con i cani. Ma costano un paio di lampi i cani, costano 1500 euro, 2000 euro, dipende. Costano un bel soldi. Lo so. Lui già lo può fare, non abita a Filippo lui. Sì, abita dalle parti di casa di campagna tua. Nell'altro viottolo lui abita. Via del vicolo di Giulio. Lui abita in quel viottolo lì, lui entra. E lui lo può fare sì, c'è la campagna. Però mi sono lì dietro la cassa. Ma è tu già, non posso toccare, no? Portato girare dietro la cassa, posso dire. Sono lì per fare la guardia alla cassa loro. Nessuno dentro la cassa, quando io mi sposto e cose che ho le spalle girate, non si sa mai, c'ho i cani, i bambini, Cazzo, se tu entri in crisi si bagnano. E uno mi stava, uno di quelli lì, mi dà, adesso non so se è il maschio o la femmina, mi stava bagnando solo perché ero nel banco che dovevo pagare. E infatti non può, c'erano tutti e due dietro. Poi tutti e due dietro erano. Ma questo è il canale dei popoli? Ma cazzo era. Sì, è questo. Sì, può poco ne puoi fare, se no niente. Questo canale dei gay? Con come lo gay? No. E cos'è oggi? Non c'è spettacolo in giro? Ah, noi di solito andiamo ai karaoke già, ciao a tutti comunque. Oh, karaoke. forse andiamo stasera, vediamo, perché volevo scendere a Porto Torres, ma vediamo la voglia, perché ieri mi sono un po' incicciato. Ubriacone classico. Cosa ha bevuto? Solo birra. Cos'è che hai guardato con Mirta? Stavo per quello. Cosa? Hai sentito? Ehi, sulla tua portante era. Cos'è, un messaggio? Cos'è? Sarà il tuo cellulare, no? C'è un tablet in mano, però non so se è questo. Natalino, salvaci tu. Ah, non balli, eh? Non balli. Ha risolto Natalino con le disturbi. Aspetta un attimo di quel ric che è tornata mia moglie, che gli metto il guinzaglio al cane, così lo porto. Ciao Concetta. Ho detto, non ha risolto, risolto ancora no, è nel limbo. Ah, ho capito, nel limbo, sa limbosata. Deve provare l'antenna nuova, deve vedere se fa TV, possibilmente rialzarla. Troppo macello, io avrei già rinunciato, ma mi sarei rimasto a modulare dalla macchina, come facevo io all'inizio del 2010. Ti capì? Sì, sì, vabbè, in macchina lo puoi fare quando c'è più caldo, ma quando c'è freddo, no? Poi c'è in macchina, io non l'avrei modulato. Vabbè, io nel 2010 non avevo antenne, uscivo apposta in macchina a modulare, andavo a San Francesco, freddo o non freddo, già c'è il riscaldamento della macchina, la modulavo da lì, almeno mi sentivano tutti, capito, bello in alto. Ah, beh, certo, però il discorso è che in macchina non è che sia bello, mi da casa d'estate, magari sì. Ehi, vabbè, ma io mi trovo bene lo stesso, l'importante era parlare, stare così a discutere. È molto terapeutico il baracchino, così per tenere, per essere un po' in compagnia, discutere un po'. Oh Luca, ma tu sapevi che partita c'era oggi, no? O anche a te non... No, non so che partita c'è, perché? No, perché sia Claudio che Giulio erano andati a vedere la partita, mi pare. Presumo la Juve. Allora, facciamo così. Vado a vedere il giornale della televisione, vediamo se che partita era. E se era a pagamento oppure su Sky. O su Mediaset Premium. No, sono curioso di sapere che partita era. Perché io non è che le seguo, ma... La Juve, Marco, la Juve, ciao. Come? La Juve 1-0. La Juve 1-0? Vabbè, meglio così, dai. Meglio così. Ma chi è l'avversario? Io sono qua comunque in ascolto, ma non parlo, ok? Eia, ma stai guardando la partita? Eia, vabbè, l'avversario avrei voluto. Chi è l'avversario? Chi è che ha parlato? La persona della voce bassa? Sembrato Franco. Forse Franco, era basso di voce però, basso basso. Marco, faccio quel mix che vado da mangiare a Giampiero, ci sentiamo dopo. Ciao Luca. Ma no, ce l'hai con la macchina, guarda dove sta. La macchina non la prende più mia sorella. Hai detto che se la tirerevo, cosa la vuoi dire? Non è tanto tu cambia idea, cosa ne so. Hai detto che si vuole tenere quella lì e vendersi la punto blu. Quella che c'ha. Ah, di Giovanna allora? Sì, Giovanna, è di dentro e già lo sai con la macchina. Ah, ho capito. Ok, a dopo, bianco per me. Sempre in PMR eri tu, no? Sì, sono entrato che c'era Marino, poi ho cambiato antenna, ho girato quell'altra, capito? Per trovare con quella gigiola. E l'altra volta siamo puntati a tutta Ruggero. Adesso qui sono a bere. Vabbè, a fra poco Marco. Leia, buon viaggio. Questo buon viaggio, devo fare un piano di scale. Già, dietro fa poco, lo dirò, la magnata attende. Leia, ciao ciao, chi c'è rimasto? Io sono qua, sto chiudendo un tablet, da di una amica che l'ho sistemato. Sì, sono di Naghi. Lui dice, andiamo a giocare ogni mese. No, dice, forse lui. Poi dice, già, magari. E così mi devo arrangiare. Se non mi arrangio in questa maniera, io non chiedo niente a nessuno. Capito? E fai bene. Io conosco un proverbio che dice, chi fa da sé fa per tre. No, no, non è da per tre. E le sette ti fai su di... per la giornata. Beh certo, già. Ripeto, io non chiedo niente a nessuno. Sembra male che non ho vizi, dai. Non fumo, esco il fine settimana, così. Ma niente di particolare, dai. Vabbè, andata così. Ho trovato un amico e... io, dai, poi compagnia, e mi sono guardato. Io, una volta di un'altra mi piace compara. Io vedo certe persone che sono sempre a un problema, dalle dove di mangiare, si spinta a sera, sempre con il problema della vita. Ma come fai? Me la fai con calma, dici. Ah, io non so cudirsi. La vita mi lavigo a casa, non so cudire la piscina mia. Intanto mi faccio la scorta anche. E me la bevo fresca, non calda. Ma quelli che ti sto dicendo io sono... destinate guarda la loro vita è quella, non gliela puoi cambiare, o meglio così si rimorini. Sì, ma questi c'è proprio si vede a 3 km, fa vedere che gli denti rubano whisky, rubano tutti di fuori, ma sai cosa mi approfittava? Guarda, il negozio rimaneva con due commesse, una che stava in salumeria e l'altra la cassa. Verso le due, lui dice no perché faceva l'aria continuata, no, allora non è problema, perché stava che non c'era nessuno a controllare. Andava dei vicuri e rubava le vicuri. Adesso il negozio a quello da lì lo chiudiamo, quello che apriamo alle 5 e mezza, quindi se c'erano dietro. Così non rubano più. Ma perché telecamere non le avete? Cosa? Telecamere non le avete? No. Nell'altro negozio sì, dove lavoro io. Ah, ho capito, già. Un casino, rubano dappertutto con uno solo lì. Comunque adesso stiamo mettendo i tappi anche in tacchino. Praticamente se tu vai a rubare di cuore con tappi in tacchino, con la passione della macchinetta su. Ho preso però un tablet, ti a vedere. Che ne ho messo un vetro che non è suo, però va bene, uguale all'altro. Beh, connesso, capito, adesso ci abbiamo i tappi a metà di sono quella granaia. Quando tu arrivi alla casa, che fai di proprio il tappo? Se tu non vuoi pagare, che vai a rubare alla roba, come fai? Chi sono? Meglio. Sì, ma lo sai, se no quella è la mente, ma ci credo, se non mi rubava. Quelle costose, no? Sì. esco fuori e c'è la mia ragazza. E vabbè, mi dirigi, e mi ha lasciato fuori, si in camera, aspetta, arrivo subito. Ti prendi Marco? Eia, eia. Marco, riprendi, che innamorato. Si va, c'è così a stracco. Oh, yeah. Luca, non ti lamentare. E beh, Marco, ce la fai? Marco, sveglia il sonno. Beh, vabbè, me ne va, vai. Luca, se mi ascolti, se più lei, non è stato, non c'è più nessuno, mi fanno come lei, ha fatto un io. Per cui, non so, io fermo. Ok, ci sentiamo. Veramente, ci sono io. Non mi ha sganciato, e beh, può comare. Anche... Vabbè, mi pari. Ma il canino sì, adesso non capisco se sì, Natalino o Volpe, perché è una voce di Volpe. Ma la voce, Natalino sono. È una voce diversa, scusa, è lontano questo. Lontano sono da cosa, sto facendo cosa. Dal microfono sono lontano. È bravo Vittorio, Vittorio Volpe. La voce è sua, allora cambio subito. Non visto ieri a Vittorio già. Ma già, l'ho visto ieri a Vittorio. Oh, io sono da un paio, lo vedo. Ma non sono alla figlia lì a Cicco, da Mirko, viene anche lui a cantare. Oh, va così a farsi. A passarsi un paio d'ore, dai, con noi. E lui suona, Vittorio suona. Bravo, suona. Io non l'avevo mai visto, ma l'hai riconosciuto lui la prima volta. Ma sei Luca? Sì, Vittorio sono. Ah, sono Vittorio. Io guarda, una volta solo l'ho conosciuto e poi non l'ho più visto. Adesso magari se lo vedo non lo riconosco nemmeno. Gamma. E cosa fa canta la figlia? La figlia è un mostro cantante, è bravissima, c'è una voce allucinante, ma veramente canta bene. Anche lui è bravo cantando, eh. Ma la figlia lo stesso è, guarda, brava brava. Ma canta a fare serate oppure canta a canavo? Canta a fare serate. Ah, ecco. No, non l'ho mai vista, non l'ho mai sentita. E anche Manuela mi ha fatto produrre di serata, ha aperto un locale che ha aperto nuovo, la prima serata l'ha fatta lì, diciamo di che. E poi l'ho preso con noi. A Bologna e ha fatto una band, ha formato una band a Bologna dove studia. All'università ci sono dei suoi colleghi che suonano, eccetera, eccetera, ha fatto una band perché questo, praticamente questo suo collega dell'università dove va a smettere di studiare era bravissimo, però doveva smettere perché i genitori non potevano più aiutarlo negli studi, magari eccetera. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto questa festa di patrono che c'era lì, hanno fatto questa band, hanno suonato e cantato e gli hanno dato i soldi quindi dell'organizzazione e questi soldi li hanno devoluti a questo suo collega. Aspetta già un attimo, aspetta. Ma mi stavi ascoltando? Beh vado dai, io vado. Io vado. Dai. Mi preparo che devo andare a prendere mano. Dai già, scusa che stavo contattando la padrona del tablet, che l'avevo sistemato, ho detto che avevo che veniva a prenderselo. Chi mi devi dare i cartucci? Ah, così quando vai a karaoke ti preaggi. No, vabbè, ieri la verità sono andati con la mia ragazza a mangiarsi una pizza lì vicino a casa. E poi, vabbè, una birretta, un'altra birretta, poi va questo mio amico, mio Dani, non lo vedevo. Lui stava bevendo un birro, già birro, però mi metti, ha detto metti anche a me un birtino, va, io sto per ammazzare la pizza. E da uno, poi sono diventati due, forse anche tre, forse anche quattro, poi mi sono fermato. C'ho un mal di testa ieri notte, guarda, ora sono rientrato, guarda, alle 5 stamattina mi sono alzato, mi sono mangiato un pezzo di merendina e mi sono preso una bustina già, perché era impossibile, mi sono scoperto la testa. Ok, già ho visto, e la tua ragazza non ti ha detto niente perché sta vivendo? No. Guarda, se fosse stata una persona di qui io mi avrebbe detto. Oh, non bere più, basta! Ci ha preso il braccio. No, c'è il braccio. Ho rischiato pure. Allora, dici? Diciamo, se connette. Che prima schiacciavo una lettera e non faceva connette, mi dice, schiacciava 50.000, vediamo un po'. Andiamo su Google, è velocissimo anche. Allora, sta a posto. E niente, già, poi vabbè, quei giorni non stavo manco bene, tipo lunedì, martedì, mercoledì, avevo la tosse, mal di gola, e non stavo bevendo niente, solo acqua e qualche succo di frutta. Da oggi non tocco niente, no, ma sono pochissimi già. Oggi mi ha ripigliato, domani non tocco nulla. Anzi, domani sono invitato in campagna, che il padre fa l'arrosto, ma arrosto, no? Bevo acqua, se non è dio lo stesso bevo acqua, poi venerdì non faccio lo sbaglio che ho fatto ieri, mi bevo le mie due birrette e basta, mi fermo. Perché se mi trovano, li accompagna lì verso l'una, lì zona latte dolce, se mi fermo mi viene la patente già. Sì, non è stata la figura quando è stato, sempre lo state mangiando voi, non è che Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, che anche io chiudo, ciao. Ciao a tutti. Ciao, Tari, ciao, ciao. Mario, tu, vai. No, ero qua e stavo ascoltando, e stavo anche guardando la partita. La Juve ha perso, va bene così. E io, 2-1 ha perso in casa, ha parato un rigore, Dybala di nuovo ha sbagliato un rigore. Quest'anno mi pare che gioca grosso sulla Juve. Prima sconfitta in casa, e vabbè. Purtroppo quando si sbagliano queste cose, paghi, già va bene lo stesso. Sì, va bene che c'è un bel buon allenatore, se ne becchia un'altra, tranquillo. Sì, ma non capisco come continua a far giocare Buffon, non capisco, vabbè. Io non sono quello che comanda, però per me il secondo portiere è molto, molto più valido, perché è molto giovane, quindi. Però loro continuano così e allora si prendono questi risultati. Partita da 2-2, molto bella, però la Juve ha sbagliato un rigore, invece la Lazio non ha sbagliato il rigore, ne hanno dato uno per parte, la Lazio ha segnato il rigore, invece la Juve l'ha sbagliato, molto bene. E vabbè, se vogliono rimediare, se no a me già non mettono niente in tasca. Ascolta Giuseppe, hai sentito? È un buon amplificatore quello, gli aumenta anche la radio, se la fa molto male, intanto le sto preparando l'MB+4. Adesso vediamo in settimana ci risalgo e le metto le MB+4, intanto io ne ho tre, ce ne do uno e lo uso, le faccio il cambio di connessione, almeno non ha problemi di modulazione. Come segnale ho aumentato da 8 a 9 più 5, capito? Da 8 a 9 più 5 è modulato, va bene adesso. Sì, io sento che Massimiliano adesso benissimo, mi ha dato il video. Parlando io, siamo messi sul canale 8 con la moglie di Massimiliano e nel video aveva picchi di 9, da 8 a 9, mentre prima lo sentiva in mezzo al QRM, capito? Insomma, l'ho visto io qua, quindi non mi interessa, io sono favorevole, perciò il cambio di segnale l'ho visto e mi va bene così, dai. Qui erano tutti a posto, ho cambiato uno spettone che gli avevo portato io, ho eliminato quello corto, lui aveva uno corto, capito? Forse era in disaccordo per quello che il lineare saturava, adesso invece non satura, anzi aumenta la modulazione. E io vale, dai, non ti ho chiamato per essere in ascolto. E io lascio tutto acceso qua, ancora non è pronta la cena, rimango in quel rix. Devo mandare un paio di messaggi e poi andrò a cenare anch'io, dai. Ci sentiamo domani, vai allora, dai. Va bene, dai, ci sentiamo domani, ok? Ciao, vai. Vale, va bene, e te l'ho detto io, facciamo cambio, io ti lascio tutte le antenne, tu mi lasci la mantova, in più ti regalo una scatola di pelle. E cosa ti faccio? Tanto le radio ce le hai, non mi dire che non ce le hai. Ti lascio tutte le direttive, tutto, la mantova già pronto, capito? Pronto a schiacciare tutto, e io vengo lì ad Alghero e uso la tua. E più ti lascio anche una scatola di PL e qualche altra cosa, capito? Ma certo non ti lascio PL di plastica, non ti do PL buoni, con barilotti, insomma. Ti lascio tutto il cassettino pieno, eh? Così ti sbizzarrisci. Dai, vale, ci aggiorniamo, un abbraccio. Già ci sentiamo domani, dai. Buon fine sabato, ok? A domani, vale. Ciao, ciao, vale.